Vai, andiamo in diretta. Ok. Dovremmo esserci. Non è migliore una volta, immagino. No, perché fa comunque schifo. E no, adesso però è più in alto. Vabbè, no, perché tu vedevi quello di Ops. Comunque vabbè, benvenuti. Ah, okay. Perfetto, questo non deve succedere. Benvenuti a Coloni. Coloni, episodio numero 29. Noi siamo Tycoons and Dragons e vi salutiamo. Ciao. E no, vi ricordiamo che ci potete seguire sulla pagina Facebook di Tycoons and Dragons e sul quella anche di RGDR, dove ora la metterò, e anche su il podcast di RGDR e il sito di rgdr.wordpress.com. Comprate i nostri gadget. Comprate i nostri gadget su Society 6. E questo vi ricordiamo come sempre che giochiamo alla quinta edizione di Dungeons and Dragons. E io presenterò oggi i miei ospiti. Sta diventando un talk show improvvisamente. Esatto. Questo sono sempre più o meno i soliti, ma sono abbastanza numerosi. E di presenza. E siamo tutti a Bologna, tra l'altro. Aspetta, quindi... no, vado a casa e faccio una chiamata. Esatto, non abbiamo chiamate. Oggi salutiamo intanto Edoardo Saladini, dal bagno, che non sta si tornando segue. Dall'Islanda. No, non ci segue assolutamente neanche quando è presente. Ma come era già come vecchio da Bologna, abbiamo Giulio Bosi, Enrico Cattabriga, Luca Lazzarini e Stefano Gabbaroni. Non guardare in camera. La 1 o la 2? Cosa sei? Senza ulteriore indugio. Sigla. Senti che casino che fa sta porcata. Sei sicuro che la scala di qua? È strano perché dentro sono delle magie. È molto grande. Tipo il lago che non abbiamo incontrato è enorme, 50 km no. Di diametro. Sì, è enorme, vabbè, non è. Camuffarsi primo livello illusione. È enorme. È grande. Vai, gioco è di prestigio, grande. Trucchetto, trasmutazione. Chi è allora. Sta vado bene. No, Salam scrive. Ha detto che Katta vuol fare riassunto. Katta vuol fare riassunto e glielo facciamo fare. Farò il riassunto leggendoti che cosa ho scritto. Nel mio quaderno dell'ultima sessione. Sembra una roba di Arci a inizio sessione. Pulizia etnica. Fine. Etnica. Ho scritto due parole. Bravo. Grazie. Oh, è riassuntivo, eh. Ok, allora partiamo. Ma fa scena riassunto, avevo detto. Dato che si vuole di venire così tanto spesso. Veloce. Nel senso che abbiamo... Cioè, non è che è successo molto. No, appunto, abbiamo avuto lo scontro con gli Echi. È andato bene, più o meno. Comunque siamo riusciti a prevalere. Mentre... Cioè, tu lo sai solo perché Sierra è ancora vivo. Il personaggio si è alzato e sono vivo. Esatto. È andato bene, abbiamo vinto. In pratica eravamo noi quattro, escludendo Eric, che era... non sapevamo dove. Abbiamo cioè, combattuto noi quattro escludendo Harry. Che c'era anche no. Sì. No, l'ultima. Quando abbiamo cominciato era lì, quando poi è scappato quando è cominciato lo scontro perché si è impaurito. Sì, sì. No, è non Harry, che vuol dire Philip. Philip è scappato. Okay. Sì, dicevo Harry che era da un'altra parte, Harry, non sapevamo sì, no, all'inizio non dove era. Sapevate, anzi, pensate che sia stato lui a innescare lo scontro con la freccia. Esatto. Ma non abbiamo prove, almeno io non le ho. Nessuno. No, in realtà credo che solo Salma senza Philip senza. E abbiamo beh, allora, piano. Nel senso, voi non avete prove, cioè nessuno di voi ha visto tecnicamente Harry tirare la freccia, però avete visto una freccia trafiggere la gola, sì. E non avete visto che nessuno. Però non usando Harry frecce particolari non abbiamo le prove che sia stato lui. Si è innescato lo scontro, io, Quaker, scusa il nome. Lo sai che tu mi scusi sempre? Arian. Beh, non c'è mai, non puoi pretendere. Grazie. A volte cioè, mio è favore. Anche il personaggio più importante per me. Sono l'unica persona, per, cioè l'unico motivo perché tu, il tuo personaggio è ancora in vita. In realtà esatto. Sì. Beh, in effetti è vero. In effetti poi è vero. Comunque, io, Sir, Quakert e Arian abbiamo sconfitto gli Ettin. Mentre noi combattevamo, Arian, si chiama Arian, ha notato sulla schiena. Ha notato che un halfling probabilmente 40. Probabilmente svenuto veniva di fatto rapito e fatto prigioniero da alcuni Ettin che l'hanno portato via. Questo è quello che lui ha visto, giusto? Finito lo scontro. Siamo andati. Avete visto, cioè avete capito che era Harry. Lui solo però. L'ha visto solo lui. Vabbè. Quindi abbiamo capito quello. Io l'ho certo capito. Che era lui. Okay. Vabbè, Harry è stato rapito, cioè sto okay. Rapito, abbattuto e rapito dagli Ettin. Dagli Ettin. Finito lo scontro siamo andati nelle loro caverne. Tu sei andato nelle sì, loro io sono entrato nelle caverne a perlustrare e non mi sono accorto della presenza di un nano che stava uscendo. In maniera... È uscito velocissimo, in un nano secondo. In maniera... in maniera non ostile. Se non ricordo bene, stavo semplicemente uscendo dalla caverna. Sì, e qui dissolvente. Basta, cazzo. Scusate per i rumori molesti. Non so, Eric, vuoi aggiungere dei dettagli sulla tua parte? No. Allora, l'ho provato. Io. Ecco, in base. Direi che sostanzialmente è successo questo. E quindi la situazione, siamo in media stress. Allora, siamo. Tu sei stabilizzato. Eric è stabilizzato, però prigioniero. Philip è. Come si intitola la puntata di oggi? Il grande la gioco. Morte del prigioniero. Ah no, ok. Il grande gioco. Gioco? Gioco. Ah. Okay. Ma sappiamo almeno la direzione in cui si sono diretti, sì. Diretti. Boh, avremmo visti. Più o meno. Beh, non penso siano tanto bravi a non lasciare tracce. Philip è scomparso da qualche parte nel lago. Hai sbagliato l'incantesimo. No, non ancora, dura un'ora. Ok, magari siccome il lago è tipo 50 km di diametro, magari adesso è esattamente al centro Philip del lago. Non lo vedi. Muterà. Mentre invece Quakert e Arian sono nell'accampamento tra i cadaveri degli Ettin e vedono uscire dalle caverne. Non vedo solo Quake perché sono abbastanza impegnato a fare il solito rituale. È vero, tu hai stai facendo il vero che non l'aveva detto Sceo. Cosa stai facendo? Un rituale. Ah, vero. I soliti rituali. Il nano pensa di essere passato dalla padella alla braccia e scappare di nuovo nella caverna. Sto solo raccogliendo i cadaveri e disponendoli in maniera particolare. Stai tirando sugli Ettin? Esatto, in che modo? Chi di voi ha l'inspiration? Io ho l'inspiration. Io ce l'ho da un sacco, non la uso mai. Non l'ho mai usato nessuno. Peccato, te la volevo usare. E potrei prenderlo un sacco di volte. Io penso di non averla, mi sembra di averla cancellata. Puoi donarla a qualcuno se vuoi. Niente. Non volevo darla a Giulio, ma vedo che Giulio mi ha fornito. Infatti devo usare di più sta inspiration perché alla fine sto giocando abbastanza di ruolo. E però la campagna in cui hai giocato di ruolo meglio di tutto. Hai sempre giocato bene, questo Merlo. No, beh, è vero. No, vabbè, beh, io che non giocavo bene. Ma vaffanculo. No, ho detto, hai sempre giocato bene, questo però... Non hai mai sbagliato un colpo. Prima giocava col ruolo di Giulio, non è che non giocava bene. Vabbè, aveva dei personaggi ad hoc. È sempre Giulio, è un Giulio più... ecumenico. Va bene. E poi devo essere l'acchino in Giulio. E poi c'è Sirron che è in una, nelle caverne, che sta cercando cose, ma non c'è niente interessante. E l'altra volta mi hai detto che alla fine me ne ero accorto. In effetti no. C'era il tesoro da trovare. Me ne ero accorto per dire. Prima. No? Il tesoro non ve l'ho fatto, e quindi scevano, e io tra l'altro ci ho fatto un tiro talmente basso che non direi che non trovo vabbè. Assolutamente nulla. Non era un uno, dai. No, era altissimo invece. Non è una cosa scena. No, guardabile. Sarà più tesoro che caverna, non so come. No, nel vedere. Senso, io pensavo che tu avessi fatto un tiro almeno normale, e quindi ti avrei fatto trovare il nano. Ma era talmente basso che ho detto, boh, vabbè, a questo punto. Anche se hai trovato un nido di pipistrelli. Anzi, un nido di pipistrelli ho trovato te. E no, quindi allora, voi invece vedete questo nano, cioè soprattutto Quakert, vede questo nano uscire dalle caverne, guardarsi intorno. Sembra molto emanciato. Si dice manciato? Emanciato, sì. Emanciato. Comunque emancipato. Emancipato no. Cioè non si potrebbe essere, ma che vuol dire? Indossa qualcosa. Non ti ha senso. È solo. È nudo, ha degli stracci addosso. Ha degli stracci addosso, sembra molto sporco e mal ridotto. Mm-hmm. Non disperare, piccolo amico, perché oggi la fortuna ti sorride. Siamo venuti a reclamare queste terre in nome del di chi? Grandissimo capitano. Questa dopo la torre sarà la grotta di Quaker. No, adesso il capitano è coso che non è qua, Philip che non è qua. Però sì, stiamo reclamando questa terra in nome del glorioso capitano Philip. E stiamo consacrando gli dei. Maestri. Scrivendo delle rune col sangue. È così importante che non è... non si degna neanche della sua presenza. Il nano ti guarda spaventato, prende da terra quello che trova, tipo un pezzo di legno, un bastone, un forfiere del tesoro, si addossa alla pietra e dice: stai indietro, però aspetta, tu che lingue capisci? Comune. Vabbè, ti dice indietro. Ci sta, devo parlare. Vabbè, oddio, anche gli ho dicesse in nanico, comunque il gesto è più. No, vabbè, ma lo sa in comune. Alzo le mani e. Ma lo sai in nanico di. No, ma lo sa il nanico. No, ma lui parla in comune. E in segno di tregua. Mm-hmm. E gli porgo la mano come per dire: avvicinati. Fai il giochetto tu. Chi siete voi? Amici di quelle bestie? Sì, sto sventrando in quello che va a mettere. Okay. Beh, forse non così amici. Abbiamo sì? Una vera e propria carneficina. Sì. Mi va un po' più a cuore. L'acqua del lago ormai sono diventate rosse. Non lo farò il personaggio per psicopatico. Per via del loro sangue. Che tu che cosa dici, piccolo amico? Che è Giulio. Ma voi siete ancora siete nella feccia ancora peggiore. Vi conosco voi. Vittime. Voi siete i Ranger. Voi siete la feccia peggiore, in realtà. Ma io in realtà peggio anche degli orchi. Addirittura. Prima di venire qua io so il cavo libero i sette mari in cerca di bottino e di avventure. Ma ora quello che importa è solo la vendetta per me. E questa vendetta mi ha portato in queste terre dove cerchiamo di sopravvivere come tutti del resto. E chi vi manda, siete qui, eravate qua per cercarmi? Non sappiamo chi tu sia, caro amico, ma se ti vuoi presentare, il mio nome è Quaker, molto piacere. Mi sputa sulla mano. Ah, giusto. Inspiration. No. Non mi dà la mano. Non veramente. La mano. È in fase molto difensiva. Ma mi sembri abbastanza provato, piccolo amico. Vieni, fatti offrire un boccone di carne. Di Etten. In effetti sì, cioè, saranno commestibili. Non mi fido di voi umani. Sono commestibili. Sta in combutta con gli orchi. Fa come ti pare, accendo un fuoco e comincio a cucinarli sotto il naso. Gli accendi un fuoco davanti, quindi... Io appicco il fuoco alla barba e poi cucino. Magari un fuoco c'era già acceso da prima degli quelli. Magari stavano cucinando qualcuno, c'è un calderone qualche cosa. Quaker fa qualcosa. Quaker. Che magari non dai un pezzo di carne che trovi sul fuoco dell'accampamento, mio... perché potrebbe essere un suo amico. Quando ho vinto il mio rituale mi avvicino. No. Indietro, ancora... indietro anche tu, vecchio. Ma è qualcosa tipo charm. Sarà sì. Completamente coperto di sangue. Thunderwave. No. Salve, Mastro Nano. Cosa, come mai era prigioniero di questi defunti? Ah, come se non sapeste. Mi volete riportare nelle caverne? Non sapevo. Nelle caverne degli orchi, nelle miniere. Non per il vostro guadagno, il vostro lurido guadagno. Intanto tu, Sirron, senti delle voci e delle urla provenienti da fuori. Esco. Mastro Nano, posso sapere il vostro nome? Il mio nome non ha importanza. Ok, non ha importanza. No, non intendevo quello. Comunque, vedo che la mia influenza è contagiosa. Non c'è quasi niente che potrebbe interessarmi meno delle ricchezze materiali. Ah. Ma quindi voi non siete forse in combutta con i ranger della colonia? Al momento, a dire la verità, lavoriamo per loro. Ma è una cosa temporanea, più che altro. Quindi voi siete all'oscuro di tutto, forse, mi volete far credere? Noi abbiamo imparato di recente che... qualcosa tra gli orchi e i ranger c'è, però non ne sappiamo nulla. Qualcosa bolle in pentola, controlla. Sono stato avvisato della presenza degli orchi su queste terre da una dei numerosi villaggi locali con cui ho stretto amicizia, e non certo dai ranger. E abbiamo visto un tuo simile essere trasportato via dagli orchi. Avevate visto, esatto, dei nani ingabbiati dagli orchi. Dei simili essere portati via dagli orchi, una delle nostre all'entrata di quelle disavventure nel bosco, quella grotta. Allora, una cosa, Quakert e Arian, mi fate un tiro di... Anche io sono uscito, non so se ho sentito parte del tuo. Sì. Me lo fai anche tu, Shea, un tiro. Direi... ditemi voi. Se non lo volete fare... Sì, fatemelo sull'intelligenza. Oh yeah. 1. 11. Dai, uso l'inspiration, ma. Addirittura. Se no tanto non la uso mai. 13. Ok. Questo è un nano diverso, cioè non è il classico nano. È un nano grigio. È un nano al contrario. È alto e snello. È un non basso largo, un nano. Sì, e sono i Duergar sostanzialmente. E sono estremamente conosciuti per essere estremamente abili nella lavorazione dei metalli e delle pietre, eccetera. Sono nani da montagna. Tutti i nani sono da montagna, sì. Questo in particolar modo. Sì. Cioè sono proprio da caverna. Sì, esatto. Sì, sì. I sette nani minatori sono. I nani che avevate visto. I nani esatto. In realtà mi sembravano dei nani normali, però non ci avete fatto troppo caso. Ha dei tatuaggi, qualcosa, qualche segno, qualche cicatrice particolarmente... Ha qualche tatuaggio e sì, un po' di segni, chiaramente sì, non è in ottime condizioni, questo è evidente. Ma stranato, se mi permettete posso vedere di curarvi le ferite o... Perché dovrei fidarmi di voi? Infliggerne altre. Lasciatemi andare per la mia strada. Non vedo nessun nome. Beh, su questa strada. L'abbiamo anche se tutti. Anche se involontariamente l'abbiamo salvato. Voi non sapete nulla. No. Cerchi e sordi. Illumini la nostra oscurità sulla materia. Perché dovrei? Siete... No, magari potrebbe essere. Andatelo a chiedere ai vostri amici ranger. Ma visto che non corre buon sangue tra lei e i ranger, che a me non frega niente ai ranger. È tornato il vecchio Giulio. E intanto continua a cucinare. Cioè, non è detto che i nostri obiettivi siano così diversi. L'odorino della carne che sfrigola. È sicuro di non volere un boccone, signor? Non importa il mio nome. Lo vedi molto non ha intentato, indubbiamente. Dice, ok, non sembrate essere all'oscuro di tutto. Mangerò volentieri un boccone. Dopo riprenderò il mio cammino. Se non voi non avete nulla in contrario, piuttosto siamo in terre molto pericolose. Sicuro di non volere una scorta per un po' di strada. Noi sicuramente dobbiamo andare a salvare il nostro amico che è stato catturato da Yeti. Per il resto, gli ultimi nani che abbiamo visto non ce la passavano benissimo, magari girare da solo in effetti non è proprio il massimo. Una scorta non mi farebbe comodo in effetti, ma penso che riuscirò comunque forse a cavarmela. Voi se forse mi darete qualche informazione io potrei condividere qualcosa con voi. Siamo al suo servizio, signor. Il mio nome è Grankin. Grankin? Grankin. Ah, scusa. Il signor Grankin. Com'è finito qui? Sono fuggito. Fuggito dalle miniere dove sono stato rinchiuso. Miniere di cosa, si posso chiedere? Beh, diciamo che dovreste saperlo almeno questo. Oro. Sì, esatto. Quanto sono sul pezzo. C'è dell'oro nelle montagne, ma... Ah, quello a cui non interessavano le ricchezze! No, vabbè, che ascolto il master, cioè non è che... C'è dell'oro nelle montagne, ma... quello bravo, ascolta il master. Sì, esatto. Ma voi ranger non sembrate, voi della colonia non sembrate così interessati a recuperarlo, quanto più a, diciamo, a farlo recuperare da qualcun altro. Dove si trovano in questo momento i ranger? Io non ci sono lì, non mi guardate. La volta che li abbiamo visti erano all'incrocio dei due fiumi. Quindi voi siete l'unica pattuglia in questa zona? Non lo sappiamo. Che ne sappiamo, sì. Beh, siamo stati mandati a cacciare gli aglietti. credo che abbiano mandato gli altri, li avremmo visti. O li avrebbe, cioè, o saremmo stati insieme. Non avrebbe senso mandare. Magari volevano spiarci. Ah, oddio. Questo non l'avevo considerato. Beh, perché dovrebbero? Perché non si fidano ancora di noi. Dopotutto siamo qua per testare le nostre capacità. Effettivamente non escludo che abbiano mandato qualcuno a pedinarci. Un motivo per cui non è altro, non è ancora altresì più sicuro viaggiare da uno, soli due, tre, sì. Per lei, signor Grumkin. Siete venuti qua a piedi o avete delle cavalcature? Abbiamo una barca. No, siamo a piedi. In realtà. Cioè, qui siamo a piedi, abbiamo le cavalcature. Ah, ok. Se avete delle cavalcature, ve ne potrei comprare una. Ah, no, le renne che hanno lasciato. Gli elk. Sì, sono prima del lago. Ah, vabbè, le lasciate, sono qua dietro. Con che moneta di scambio, mi scusi se sombro insolente nel chiedere. Magari qualche informazione. Magari. E magari una di queste. Tira fuori una pepita d'oro e la butta al centro. Interessante. Da dove l'ha tirata fuori? Dal culo. D'altronde. Da quanto tempo sei prigioniera? Cosa ha mangiato? Io stavo per dire, l'ha tirato fuori da una caverna per finire in alcune informazioni, non tutte le informazioni. Vabbè, cioè, sai mai. Cioè. Vabbè, raga, lo facciamo un altro, uno che caga pepite e io lo prendo. Beh, dipende, hanno più valore queste pepite o le tue informazioni? Ah, questo in realtà dipende da voi. Sembrate all'oscuro, forse volete sapere come funziona il grande gioco. E spariamoci subito il puntino della puntata. Beh. Perché non cominci? Quante cavalcature avevamo? Una testa. E la sua se l'era portata via. Prima vorrei vedere però quello che ho comprato. Vai a prendere la cavalcatura. Ehi, no, io voglio le informazioni. Andiamo tutti insieme. No. Perché no? Ma tu non ci sei. Asa un po'. Perché sei più veloce di noi. Fai prima. Sì, col tappo non va giù questo. Sì. Camminare sull'acqua è ancora possibile. E qualcosa che non è passato un'ora, sì. Allora taglio sull'acqua e poi. La rena. Con la rena faccio il giro, è ovvio. Con le rene, quindi sono 4. E c'è ancora di Filip. Possiamo vendergli quella di Filip. Ciao Filip. Secondo me erano 4, sì. Sì, perché la quinta lui se l'è. Ma secondo me no, lui si condivideva la gamba. Una. Dici? Sì, per me ne vanno 4. Quindi 3 adesso. Ma sono 3. Per il momento. Sì, tre. Vabbè, allora vado io. Ho pelle di Yeti, potremmo darle della pelle di Yeti. Ed è comoda, confortevole, sanguinante, è alla moda, lì bisogna un po' pulirla, ma. Prendi la birra. Sì. Grande. No, volevo dire che questo erano. Io intanto vado a prendere le renne. Ovviamente non ci vado a mo' di coglione che guarda per aria, ma sto attento eventualmente a non incrociare. Non vorrei finire nella stessa solita sessione in cui loro devono salvarmi. A mio animal handling. Ah, sono già arrivato dagli animali. Vabbè, ma sono i nostri animali. Fammelo con vantaggio allora. Ci sto. No, gli devi far attraversare un pezzo d'acqua. Ah, ok, solo per quello. 17. Bravo. 1-1, sì, prima o poi che arriva scioccoleremo. Stavamo ragionando su stavamo ragionando su quante erano. Perché probabilmente gli Halfling la condividevano. Quest'anno dobbiamo fare sia lo special di Halloween che quello di Natale. Ci sono. La sera di Halloween lavoro. Ma non la sera di Halloween, fa lo special di Halloween. Ah, scusa. Okay. Ci con sono... tutti i pizzi morti, cioè, non sappiamo se ne avevamo una a testa o se gli altri condividevano. No, ne avevate, voi siete 5, normalmente ne avevate 4. Ok, allora adesso ne vado a recuperare 3, che la sua non so dove sia. La l'aveva portata via con lui. Abbiamo seguito le tracce della. Hai ragione, della bravo. Arena. Quindi sono 3. Bravo, ci hai perso una renna, oltre che la vita. Bravo. Bravo. Bravo. A meno che. Non mi dici che ho la possibilità di seguire le tracce della sua renna e provare a cercarla. Però è fondamentale adesso? No, no. Cioè, magari da dove siamo partiti con le renne, da dove sono partito io adesso con le renne, magari vedo un percorso che più o meno so dove poter provare a cercarla. Cioè, potresti metterti a cercarla, vuoi metterti a cercarla? Beh, se gliela dobbiamo vendere. Non sei a mano. Cioè, tu. Faccio così, ti tiro in sopravvivenza, poi... Ma questa... È una tua borgo o la tua? È la mia. È la tua. Provo Vezza, a cercare una pista. Ah, se dopo, tipo un quarto d'ora, non trovo nessun tipo di pista, lascio perdere. Allora, intanto hai portato le renne, poi torni di là a cercare, quindi. Provo, ma una roba veloce, tipo se vedo che non trovo tracce subito, basta, non ci perdo tempo. È la mia sopravvivenza. 13. Metti un po' lì a cercare. C'è una roba da esagerando un quarto d'ora. Se non trovo subito una traccia, basta. Non voglio perdere. Non trovi nulla di decisivo. Allora torno indietro. Basta. E va bene. E come eravamo rimasti? Ok, il nano vi stava dicendo due cazzate. No, stava dicendo che prima voleva vedere sì, diciamo quello che ha comprato. Quindi arrivo con le renne. E quindi voi siete un po' gli ultimi arrivati, se ho capito bene. Esattamente. Dovete stare attenti a chi fidarvi. In che senso? Come sempre dei ranger. O dei nani che incrociamo nelle caverne. Gli uomini della colonia sono dei venduti malvagi. Ben pensanti. Venduti. Dice il true. Potrebbero essere il meno peggio in questo momento. Qualche giorno fa è arrivato un nobilotto dal sud che si è già messo a dettare legge senza conoscere la vera legge, quella della natura. Quella di queste terre. Sempre feccia umana, gli puoi mettere una corona, ma sempre feccia. Puoi mettere la corona una merda, ma sempre una merda rimarrà. Merda? Lui? Fino a prova contraria, tutti gli uomini della colonia ora si stanno adoperando per ripulire la zona da personaggi come questi, indico i cadaveri degli ettini. E perché pensate che volessero liberarsi degli ettini? Per avere più risorse. Per il territorio. Sì, ma è un po' lontano qua dalla colonia. Appunto, per ampliare la zona devi perlustrare i confini e allargarti. Dici che c'è un altro motivo? Beh, questo è chiaramente, per come la vedo io, è un chiaro favore verso gli orchi, che potranno riversarsi su questi territori. E in cambio, gli orchi, che cosa darebbero? Gli orchi fanno il lavoro sporco. Catturano i nani? Catturano i nani e li portano nelle miniere per trarre oro. E non vedo niente di male. No, mi sembra un ottimo sistema. Anche se non sono gli unici minerali che cerchiamo in quel montagno. Eppure una cosa mi stupisce, gli orchi sono primitivi e poco inclini a sofisticati ragionamenti. Come avrebbero potuto intavolare nella discussione un piano così ingegnoso? E soprattutto perché, come avrebbero fatto a fidarsi delle loro primis, degli umani? Forse perché c'è un potere più grande dietro tutto questo. È un ottimo motivo. Chi comanda gli orchi? Chi regge il gioco? Il giro che conta, no? Cos'è? Il gioco. Il grande gioco. Il giro che conta mi sa che c'è già stata come puntata. Sì. Pensavo fosse un riferimento a quello. E prima dell'arrivo dei coloni la situazione com'era? Come andava, tra virgolette, questa è la zona vostra? Noi in realtà viviamo dall'altra parte, noi e gli altri nani che vengono presi viviamo nell'altra parte delle montagne. Cioè dalla parte... No, aspetta, in realtà, fermi, idea, sbagliato. I nani che vengono presi dall'altra parte delle montagne, sono comunque sulle montagne, ma io non sono di queste zone. Di dove sei? Qual è l'altra parte delle montagne? Qual è l'altra parte? Lui intende sull'altro versante. Ah, quindi verso... Sì, cioè sulle montagne, ma su, tendenzialmente sul sud, l'altro versante, vi dice, vivono i nani che vengono presi dagli orchi. E lui però dice che non è di queste zone in realtà, ma è stato proprio deportato qua dai pirati. Ah. E quindi, che sono che anche loro che hanno quindi un ruolo. Sono parte del gioco anche loro. Quindi c'è una regia che unisce orchi, pirati e ranger. E c'è anche qualcun altro in questo grande domanda piano. Domanda al master. Io... A cui dovrei saper rispondere, ma non ne sono in grado. All'apice di tutto, sì. Chi ha fatto partire queste colonie? Immagino tu ce l'abbia raccontato nell'intro. Il regno di Saradoc. In generale il regno, non sì. C'è qualcuno in particolare che ci hai nominato? No, a un certo punto un nobile che ha preso in appalto la cosa. No, storicamente parlando, che c'è stata una guerra molto importante che la Saradoria ha vinto, quindi ha maggiore potere e maggiore benessere. E poi adesso è partita con questa da ormai un bel po' di tempo, sì, è partita con un'espansione per tornare in quelle che erano, a prendere colonie, quelle che erano i loro territori ancestrali. Sì. Da dove vieni, Mastronano? Da un lontano luogo. Il continente, sempre qui dal in queste terre degli altri. No, dal continente. Okay. Quindi... Letteralmente ti hanno rapito i pirati e portato qui. Sono stato rapito su l'isola di Libeca. Mi trovavo lì perché stavo mercanteggiando. E dove siete stati? L'isola in mezzo. Sì, ho capito. Mi trovavo lì e sono stato a un certo punto. Sono stato catturato e poi dopo sono stato trasportato qui al nord. Chi mi ha rapito sicuramente sapeva delle mie conoscenze dei metalli e del... E non ti converrebbe stare con noi per cercare di ritornare in patria piuttosto che vagare da solo nella foresta? E tornare alla colonia? Non c'è via d'uscita da lì. Ma perché ti hanno portato alla colonia? La colonia è in combutta con i pirati. Sì, ma se non hai fatto il giro alla colonia, magari alla colonia puoi prendere la noi nave. Noi possiamo una torre. Sono passati. Dillo. È vero, noi abbiamo una torre. Sono passato comunque dalla colonia. Certo, non tutti i coloni si sono resi conto di questo perché ero in una cassa. Potremmo affidarti un rifugio di cui noi, dopo averlo liberato da delle streghe, non ce ne facciamo più. Che rifugio esattamente? La torre bruciata. No, non voglio, quella zona è troppo pericolosa. Anzi no, lui non sa qual è la torre bruciata in realtà. Ti chiede dov'è la torre bruciata. Non si vede dalla colonia. Eh? È quella che si vede dentro una cassa. Lì c'è, quindi è sulla baia della colonia, dell'orso. Sì. Dell'orso. Dall'altra parte della baia rispetto alla colonia. No, quella zona è pericolosa. Ma no, devo andare verso baia sud. Non e tu dove vorresti andare? Verso sud ci sono altre colonie. Dove intendi? Ma penso di avere più possibilità. La tua unica possibilità è tentare di nasconderti, magari col nostro aiuto, e cercare di fuggire su una nave. Da solo non hai tutto speranza. Il mare degli inganni è sotto il controllo dei pirati, quindi non ho... Allora sei spacciato. Quindi dovresti andare da un'altra parte. Vabbè, è verità, cioè, se non vuole, se non vuole il nostro aiuto è spacciato. Questo voglio andare verso sud per salvarlo. È il mio unico modo per salvarlo. Questo era bello però, no? Dove era il villaggio dei tizi dell'Idra? No, era sul mare. Direi qua, sì, esatto. Più o meno sopra Kafkern. Ma sulle anse era, non mi ricordo, era dopo Kafkern. Sì. Sì, era l'ultimo viaggio prima di arrivare. Sì, sì, su queste coste qua più o meno. Quindi è di mandarli che ti lo mandi tu, così sì. Verrà. Lui vi chiede anche se avete una mappa per caso da dargli. Volendo, una sì. Mappa. Una mappa. Volendo, da sì. Buono sapere. Ma vogliamo? Vado. Vabbè, io gli dico che se vuole in questa zona, se abbiamo una mappa che arriva a quella zona, gli dico più o meno la direzione. Ma non credete che... Sì, l'unica forse potrebbe essere arrivare a Kafka. È anziano, cioè, questo nano. Non è giovane, ma tu non hai poi tutta carancono. Beh, in realtà no, qualche nano l'hai visto. Sai che i nani comunque è difficile attribuirgli un'età. Cioè, non ti sembra particolarmente anziano, ma sicuramente non è giovane. Okay. C'è un villaggio di... uomini pescatori abbastanza arretrati con la testa. Pescatore era l'idra. Puoi provare a passare di qua per fare una strada più semplice per arrivare a Kafka. Se dirai che ti mando io, ti tratteranno sicuramente con tutti i rispetti. Io ad alta voce. E tu chi saresti? Arian, profeta dei Gangliri. Mm. Io ad alta voce, guardando un po' tutti, tempeste. Dico non conosco. Facciamo tutto per dei follower. Guardando tutti di un giorno le cose cambieranno. Forse qualche informazione in più in cambio di una renna potrebbero anche darci. Penso di avervi dato tutte le informazioni. Dacci un nome. Cazzo, l'ha detto più o meno, l'ha svelato tutto. Comunque dai. Dopo 30 episodi. Fammi vedere le tue ferite. Finalmente ci capite qualcosa. Ai miei occhi è un complottista. Eh? Ai miei occhi è un complottista. Beh, sì. Più o meno hai tutte le prove che ti servono. Beh, nel frattempo potete fare un insight se vuoi. Fammi vedere le tue ferite. No, ma ai miei occhi è un, come si dice? Si fa un fanatico. Pensa che tutti siano contro tutti. Perché sì. Tutti che siano d'accordo contro di loro. Per me è un fanatico. Ai miei occhi. Hai le prove che è esattamente quello che succede. Che il ranger 21, ci diceva, sì, gli orchi avranno 26. Un ruolo, i pirati avranno un ruolo. Cioè, e di fatto hai le prove che, sì, che funziona così. Beh, le prove, Dio. La mia medicina. È malnutrito, indubbiamente. Vabbè, sono più. E... Dipende come hai cucinato. Diciamo che sì, non sta benissimo. diciamo, nelle condizioni in cui è di intraprendere un viaggio del tipo che vuole fare, sicuramente lo metterebbe molto a rischio. Comunque un viaggio rischioso. Non sembri molto nelle condizioni di ah, sì, ti chiedessimo onestamente. L'unico modo per salvarmi. Già è stato dura uscire dalle caverne e arrivare fin qua. E... se accetti un consiglio, resta un po' con noi finché non ti riprendi. Magari potresti aiutarci, visto che conosci più di noi la zona, su come muoverci e come recuperare il nostro amico rapito dagli Ettin. Non conosco questa zona così bene, ma direi che gli Ettin lasciano tracce abbastanza nette. No, l'unica cosa tenete presente è che più a nord andate, più quelli sono i territori degli orchi, ovviamente sotto il controllo degli orchi. Dimmi una cosa. Abbiamo sentito parlare di un grande potere mistico, arcano, che si cela in queste terre. La roccia degli dei. Di che, sì, tu sai di che cosa si tratta? Con gli incantesimi, il libro incantesimo. Scusa. E in realtà non so molto bene, ma non mi stupirebbe per nulla se fosse quello dietro tutto. Ho visto qualcosa. qualche personaggio oscuro, ma non saprei dirti molto. Tu sei stato... Però sì, c'è qualcosa dietro. Dopo essere stato... della magia potente. Dopo essere stato portato qui dai pirati, qual è stato il tuo percorso? Sono stato trasportato nella foresta fino alle mie... Ma da chi? Dai ranger. Sì. Non hai mai incontrato gli orchi, quindi? Gli orchi li vedo tutti i giorni nelle miniere. E come si comportano? Come dei cazzo di orchi. Però è per agganciarmi al suo discorso. Sono particolarmente disciplinati. Come li vedi? Sono degli orchi. E allora supponi che siano controllati. Sono quegli orchi pelosi, schifosi che forse avrete visto. Fra esempio io curo 7 punti feriti. Tu hai parlato di un potere che li convince a fare quello che gli si dice. Beh, diciamo... Ma l'hai mai visto in azione? Ho visto questi personaggi oscuri essere trattati come capi da parte loro. Personaggi oscuri? Dei personaggi oscuri, non so se li hai visti. Sì. Descrivi. Gente incappucciata. Parliamo di umani? Sembrerebbe di sì. Umanoidi comunque. Sembrerebbe di sì. Una taglia di un umano. Sì. E come erano vestiti? Ne abbiamo già incontrato la gente incappucciata. Sì, tuniche nere. Cercatore nera. Non vestiti come i ranger. Come si chiamano? Quelli col simbolo. Quelli che avevano un certo tipo di... Quelli che... Ne è comparso uno anche alla grotta dei mannari. Che il tuo cane ogni volta moriva male. Li hai sentiti parlare? L'ho lasciato dall'altra parte. Li hai mai sentiti parlare? Questi personaggi oscuri del lago. Ci... Con parole oscure. Con parole oscure. Ci dicevano. Hanno parlato con me, c'erano altri duergar, altri hanno parlato con te? Ci hanno parlato del fatto che dovevamo ricercare determinati metalli di un certo tipo, metalli rari. Tipo? Quali metalli? Il germanio? Metalli legati alla magia. Un po' di lanterna. Immagino sotto minaccia di morte. E sostanzialmente non c'era molta alternativa. Chi è che arcano? Nessuno. Diciamo che da parte loro c'erano parole di possibile salvezza se le avessimo trovati. Però io ci credevo poco. Quindi tu sei riuscito a scappare, ma sei stato rapito poi dagli atti? Non esattamente. Come è andato? Mi sono tra virgolette consegnato a loro per protezione. Mi trattavano male, ma comunque siamo riusciti a barattare la mia presenza qui. Ho ucciso le sue guardie del corpo. Ero molto debilitato e quindi mi sono nascosto qui per un periodo. Ok, in cambio di cosa? Gli atti ne avranno voluto qualcosa per non ucciderti? Beh, un po' d'oro. Ah, non ne voglio parlare. Un po' d'oro l'avevo trafugato e gli ho detto anche, gli ho dato alcune dritte anche sugli orchi per poterli combattere. Guarda la bambolina, dimmi dove ti hanno toccato. Poi diciamo che non era, diciamo, da un certo punto in avanti mi hanno tenuto un po' più come un prigioniero e non avevo la forza veramente di andare via. Però inizialmente, diciamo, mi hanno trovato ovviamente, ma sono riuscito con loro a barattare la possibilità di sopravvivere. No, mi sto confondendo. Cosa? Non abbiamo trovato nessuna scritta indecifrabile da qualche parte. No, allora era un'altra campagna, scusa. Ma nella caverna non c'era niente a parte. Questo anche è il classico topos delle mie avventure, il nano, il duergar, il duergar incazzato. È vero. Ma questa dai è più tranquillo però. Sì, infatti sono sorpreso. Ti chiedo un'ultima cosa. Se volessimo... Sì? Il più possibile senza farci scoprire nelle nostre intenzioni, cercare informazioni o comunque vedere la situazione a queste miniere, dove ci consigli di dirigersi? Perché dovreste andare alle miniere per loro? Io... Ho detto informazioni. Fossimo curiosi di saperne di più di questo gioco di cui parliamo. Le miniere, certo, sono possiamo nelle, chiedere ai ranger. Le miniere sono nelle montagne. Non hanno un quartier generale o qualcosa del genere? Ci sono vari siti minerari, da quello che so. Il mio era... Io mi trovavo, diciamo, immagino da quello che... riuscito a capire più o meno dovrei essere un po' più a est del fiume, però okay. Non te lo so dire con ovviamente certezza. Ovviamente sono sorvegliati dagli orchi. Sì, gli orchi pattugliano le zone e sì, sostanzialmente sono i nostri carcerieri. Certo. Do per scontato mi risponderei di no, ma te lo chiedo, hai idea di dove si possono nascondere questi tipi oscuri? Assolutamente no. Non hai mai carpito da dove possono venire? È un accento spiccato. Non lo so. Eh no, ma è quello dicevo, infatti li ha sentiti no. Parlare, che no, come no, parlavano, no. Comune, normalissimo. Accento della zona. Ma con noi sì, ci sono rivolti o in comune o in nanico, sostanzialmente. Mm. Dei pirati che cosa sai invece? Sono, da quello che ho capito, sono tutti sotto il comando di questo corsaro di ghiaccio, come l'hanno chiamato? Corsaro bianco, non mi ricordo più, ormai. Il tuo arcinemico, dovresti sapere. Il nome lo so, non so che soprannome si è dato. Da quello che so, quello era una cosa di cui si sentiva parlare già, già in giro, insomma. E sai in quanti sono? Ma è tipo corsaro dei ghiacci. Corsaro dei ghiacci, devo dire ghiacci, sì. Corsaro dei ghiacci. Lo so, non ti piaccio. Lo so, non ti piaccio. Corsaro di ghiaccio. Corsaro di ghiaccio, non solo ti piace. Non mi ricordo. Si chiamerà così. Cazzo, ormai è passato troppo tempo. Io mi sono perso. Vabbè, magari ha diversi soprannomi. C'è chi lo chiama il corsaro bianco, c'è chi lo chiama il corsaro di ghiaccio. Ma sì. Il corsaro qualcosa. Va bene. Allora, secondo te lo fanno solo per arricchirsi o temi ci possa essere qualche altro motivo? Ma comunque c'è non andare a pensare a salvare Eric. Perché il gioco è molto grosso. Però io quindi io penso che sia. Ho finito tutto. Però, tanto, no, ce n'è per tutti. Non so che mi sono messo. Visto che le parti in gioco cominciano a essere tante. Da tue di cose che non so. Però beh, sicuramente hai visto la miniera. D'oro, quelle 50. Montagne sono piene di oro e altri materiali. Esattamente. Bisogna scavare in profondità e sbattersi molto. Chiedi in tanti, sai, ne stanno portando tanti. Ne stanno rapendo tanti per poter scavarsi più a fondo. Una scala da 1 a 102. E poi, non lo so, perché è ovvio che... È la barra della vita. Chissà, magari c'è anche altre cose effettivamente lì, altri minerali magari un po' più strani, un po' più particolari, quelli super pozione, però certo. Boh, potremmo intanto vedere la direzione in cui sono spostati. Beh, io gli do a vedere quanto veloci stanno andando. Un qualcosa con dell'acqua, ce l'avrò un recipiente. Ci portarono una volta. L'acqua c'è, no, cioè, ci portarono una volta. Per seguirli possiamo anche andarci domattina insieme. Ci portarono una volta una strana pietra da osservare, però io almeno non l'ho, cioè in realtà non l'ho vista io, me ne hanno raccontato, una strana pietra nera. Nera? Sì, però non so. La pietra della visione era nera? Sì. Quella che ha evocato il demone? No, quella della visione, quando abbiamo usato tutte quelle visioni in serie. Parlavo con un altro duergar che diceva che si gliel'avevano fatta vedere a lui e erano interessati alle conoscenze che potevamo avere. Ma non, voi i duergar non la conoscete, quella pietra? Che lui riteneva che fosse una pietra con un potere magico molto forte, però diciamo decaduta in qualche modo. Decaduta? Cioè? Che ora non ha più questo potere? Sì, o comunque in qualche modo si è spento. Interdetto, sì. Io non sapevo che pietra fosse. Non è qual è la visione? In quale campagna? Ma in questa? No, non c'è mai fatto caso. Cioè, avete visto sta pietra che faceva fumo? Boh, adesso la provo a fare un po' di religione. A vedere se mi dice qualcosa. Sì. Visto che sta tornando ad essere ricorrente. Sì. Adesso serviva l'inspiration. Vabbè, la religione comunque 17, 15. 15. Allora, 15, 15, 15. Ci sono varie pietre, diciamo, care alle divinità. Possibile che fosse una di quelle, però bisognerebbe capire che tipo di potere aveva generato. Mm-hmm. E, cioè, tu hai, alla fine lì hai visto semplicemente una pietra che faceva un quel fumo lì. Mm-hmm. Quindi può essere che effettivamente fosse stato estinto il suo potere magico in qualche modo, e sicuramente un potere distruttivo, quindi una divinità sostanzialmente probabilmente non, okay, non così bene. Il mio giocatore forse ha capito cosa, però però non lo potresti, cioè è difficile da capire. Giocatore, cioè tu hai uno sopra di te che ti comanda, che dovresti avere. Senso, Arian non lo può sapere. Hai alcune idee, però Giulio, nel senso, sì, dovresti Giulio, avere oppure Arian più Cypher, non so. Hai alcune, esatto, idee, però dovresti avere maggiori elementi su come è stato usato. Tra un po' lo saprò io, quindi quando senti pietra nera, in effetti senti agitarti un po'. Sento il no, sì, un po' sì, e che è un po' che non ti trasformi, un po' che anche non giochiamo a rubare lo screen. Dai, quello un po' ci si gioca sempre. Grumkin, se ho capito bene, sei molto esperto di pietre preziose. Ma io forse ce l'ho prestidigitazione. Vi faccio vedere l'occhio dell'albatros. Per un momento gli si illuminano proprio gli occhi. Mm-hmm. Dice: no, questa no. Porca gioia. Dice: no, questa dove l'hai trovata? Trovata in un'isola al centro di questo complesso di monoliti venerato da dei cultisti del dio dei venti. Dice: dovrei fare dei test, ma questa è una pietra con un enorme potere. Che tipo di potere? Questa pietra, se è quello che penso io, e da quello che mi dici potrebbe essere così. Tu che cosa gli racconti, però dove l'hai trovata e basta? Beh, che c'era questo enorme albatros. Ah, okay. Che allora, cioè, era ostile. Stai molto attento, cioè è una pietra con un potere in realtà potenzialmente positivo, però bisogna sempre stare attenti a queste pietre perché sono in grado di trarre comunque dell'energia da chi le utilizza. Mm-hmm. Questa pietra, da quello che so io, ha un incredibile, da quello che si dice, se è questa pietra, ha una incredibile capacità nel far trovare la giusta direzione. Mm-hmm. Cioè, se diciamo chi la utilizza è veramente allineato con la pietra, mm-hmm, ed è in grado di sfruttarne il potere senza farsi prosciugare, mm-hmm, ha la capacità di traghettare, se vogliamo, mostrare la via in modo inequivocabile, mm-hmm, da quello che si dice. Però ti dico, stai molto attento perché è di quel tipo, ecco, un tipo, è quel tipo di materiale che volevano che ricercassimo. È un tipo di, mm-hmm, materiale di pietre che sono in grado di assorbire l'energia, la magia, e moltiplicarla. Interessante. Grumkin. È stato proprio un colpo di fortuna trovare una creatura della tua saggezza in queste terre selvagge. Hai tutta la mia benedizione e i migliori auguri per il tuo viaggio. Con magari una pietra del genere non vi è così utile come dell'oro, però. Ma purtroppo magari l'oro uno qui scambio potrebbe. Purtroppo l'oro qui c'è veramente superfluo, in quanto non ci sono modi per spendere. Beh, ma voi non vorrete certo rimanere qua per sempre, spero. No, lo spero anch'io. Io mi avvicino e gli dico: dai, Non esiste, l'accontentati. No, ma quando torneremo non servirà più loro. Non tirare troppo la corda, basta. Non possiamo io la posso pagare questa pietra. Non abbiamo bisogno di denaro in questo momento, abbiamo altre priorità. Male, se fossi in voi mi comprerei un passaggio per tornare da dove siete venuti. Abbiamo delle faccende da sbrigare qua. Ma prima o poi torneremo. Va bene, facciamo giocare un po' anche l'asino. E quando torneremo, la terra tremerà. Detto questo, gli leggo anche all'arena un paio di lezioni di cibo. Ok, passiamo all'as. Comunque è stato esaustivo. L'as, tu sei in... Coma etilico. No. Etilico. Allora, tu eri ristabilizzato, però eri comunque un po' ricoglionito. Senti che sei trasportato, cioè a un certo punto diciamo ti più o meno ripigli, sei distrutto, però sei legato, bagliato, vedi sei schiena a terra, scusa, pancia a terra, e senti delle voci gutturali tutte attorno a te. Puoi vedere, intravedere degli Ettin. Non parli gigante. Grotta, quindi? No, siete all'aperto. All'aperto. Non parli gigante, immagino, vero? No, parlo minuscolo. A un certo punto senti dei rum, cioè agitazione. Aperto, vedo acqua. No, foresta? Sì, sei nella foresta. Sei nella foresta, okay. Chiaramente. Sei praticamente. È un accampamento? Sì, un accampamento improvvisato. E c'è altra gente legata? Da quello che vedi, no. Okay. Senti la presenza di alcuni Ettin. E a un certo punto percepisci agitazione, però, negli Ettin stessi. E senti dei sibili nell'aria. E dopodiché un corpo di Ettin cade proprio di fianco a te. Poi senti degli urli, eccetera, e altre figure che altri corpi che cadono al suolo facendo molto rumore. No. E poi il devono essere vite sacrificate a ganglieri. Quello che è caduto è armato? Quello che è caduto, sì, ha aveva un'arma in mano. Riesco a strisciare e liberarmi dalla corda? Puoi provarci. Cosa tiro? Direi che tiri la... Rapidità di mano. Cioè. Sì, Slade of Hand. Ah, allora mi libero, dai. Aspetta, puoi pensare. sì, direi sì. Per con vantaggio o svantaggio? Normale o con svantaggio? Di solito per slegarsi rapidità di mano. Sì, cosa sì. Se no pura di destrezza, dipende come se la gioca. Però sì. Direi che in questo caso tiene come legato. No, è normale o con svantaggio visto le condizioni? Viste le condizioni direi svantaggio. 9-9 ho fatto, okay. Quindi 18 totale. 18 totale, ok. Riesci a... a liberare una mano e riesce un minimo a trascinarti. E ho le mie cose addosso. Non sei completamente libero, però riesci un po'. Ho le mie cose addosso. Hai mi hanno solo legato così o le ho sì, portate ti via? Hanno legato. Ah, ok, giusto, la tua roba. Allora direi che vabbè. Quello che tu con cosa combattevi? Con no, non è tanto per combattere, però avere un'idea intanto di com'è la situazione, poi vedremo, dai. Allora, diciamo che hai tutto addosso tranne sostanzialmente le tue armi. Ok, va bene. Giorno, no? Sì. Ok. Allora, se ho ancora tempo finisco di liberarmi. Ok. Con il tempo che serve. Esatto, però prima che tu possa finire... arriva, praticamente ti senti girato con, diciamo, non un calcio ma una sorta di, insomma, scavetto, se vogliamo, col piede. Ah. E fa... Hai giocato troppo a calcetto sto tempo. E vedi davanti a te una figura incappucciata, tipo come se fosse un ranger, e, con arco e frecce, eccetera, che ti dice: non sprecare energie, amico, ci penso io. Chi è? Non l'hai mai visto. Ah, ok, no, perché sono stato... Philip, sarei ci penso stupido. Io. No, a uccidere tutti con un colpo, il tipo, ok, dai. No, beh, tu hai sentito vari. Beh, a parte che lui volendo poteva farlo tranquillamente, penso. In effetti, adesso che ci penso. E questo ti slega. E no, anzi no, prima di slegare dice, tranquillo, ti fa praticamente, vedi, hai un momento di... Vedi una luce. Grazie, patrone. No, senti la tua spillina che vibra. Ok. E ti fa... Ti sei messo in un bel guaio, vedo. Tanto ti slega. Boh, a quanto pare mi è andata bene. Direi di sì. Dovrei stare più attento in futuro, però. Cosa ci fate qua? Tranquillo, sono solo io. Naturalmente tu non mi hai mai visto. No, però ho capito. No, nel senso, okay. Non mi hai mai visto. No. Giusto. No, ok. Sì, no, quello che... Ok. Tu non mi vedi. No, non l'ho visto. Io ti vedo, però. Io, cioè... Allora, no, sì, non ti conosco, sì, hai ragione, non ti hai mai visto. No, tu non mi hai mai visto. Occhiolino. Tipo, è incappucciato, non li vedevo gli occhi. Quella puntata di Simpson. È un... Quando mi farò occhiolino? È un umano. Quando pesterò il piede? E... Mi stavate seguendo? Diciamo che sei capitato nella mia zona. Forse ti ho messo un po' in difficoltà con i tuoi amici, ma meglio non fidarsi di loro. Perché dovrei essere in difficoltà? Perché avresti dovuto mettermi in difficoltà? Beh, diciamo che... Cosa hai fatto? Diciamo che ti sei allontanato, potrebbero pensare che sei stato tu a innescare il combattimento. Ma... poco male. so che riuscirai a cavartela. Però stai attento, perché non c'è da fidarsi di loro. Hanno interessi non ben chiari su queste zone. Va bene. Da quello che mi hanno detto non è nulla di particolare. Quindi... Tu che devo cosa? Devo fare un deception. Mm? No. Devo fare un... sì. Ho detto, da quanto so non è nulla in particolare. Cosa vuol dire? I loro interessi. Ah, perché cosa sai dei loro interessi alla fine? Beh, io adesso ho visto che sono venuto fuori queste cose, anche se non dovrei saperle, non so quali sono i suoi. E tu queste cose qua che sono, non le sai? No, però non so quali sono i loro interessi, quindi boh. Comunque lui ti dice, beh, intanto vabbè, li conosci meglio tu, però hai visto uno un pirata, un altro chiaramente portatore di magia, diciamo. E l'altro è un sacco da box. No. E anche sul sul guerriero non scommetterei troppo. Degli altri ci ho capito un po' meno. Dell'altro ci ho capito meno. Degli altri personaggi che muoiono attorno. È morto. No. Sì. Vabbè. Va bene. Che cosa hai capito finora? Volevo dirgli, visto da come mi hai detto, questa è la tua zona, quindi anche voi siete qua. Hai qualche informazione da darmi? Ci su sono quello io, che... ma devo stare un po' alla larga. Hai qualche informazione se stiamo prendendo la via giusta per i compiti che mi ha mandato da seguire? Direi no? Decisamente no. Ma Può essere una buona idea farsi amici i ranger per entrare nel loro giro. Solo stai molto attento a non fidarti. Va bene. E tu che cosa hai capito finora? Cazzo. L'asino ha fatto i compiti. Una domanda al master giocatore o al tizio? Beh, in realtà no, il tizio a allora è sincero. Cosa? Infatti, Infatti, dimmi cosa pensi. Dimmi tu cosa pensi che io abbia capito. Esatto. Che infatti posso dire poco, perché io il discorso di prima non l'ho sentito. Posso semplicemente dire che siamo arrivati. Siamo arrivati qua alla nella nuova zona e abbiamo semplicemente visto un'organizzazione di ranger che ha i suoi scopi nella zona, non sappiamo bene quali, e ci sono state cose sospette del tipo vedere nani imprigionati e così, però non so nulla. Quindi non hai capito un cazzo? No, per ora non hai risorse. Okay. Io per ora non so nulla. Dammi qualche notizia sulla colonia, poi ti dirò io qualcosa. Qualche notizia sulla colonia? Più del vedere la situazione all'interno. Però qualcosa hai visto? C'è qualcosa? Ho visto che è arrivata della gente dal sud. Chi è arrivato? Non mi ricordo come si chiama. La gente del sud. E il nobile è arrivato. È arrivato un nobile con una scorta a cavallo. Ok, sì. Che ha detto in poche parole che avrebbe preso il comando della zona. Sì. Ok, quello l'hanno mandato. L'hanno mandato. E noi subito dopo siamo stati spostati fuori dalla colonia verso l'incrocio dei due fiumi. Ok, sì, quello l'hanno mandato la corona per cercare di sistemare la cosa. Quale Ma cosa? È un boccio del cazzo. Quale cosa? Diciamo i traffici che ci sono. Forse avrai notato qualcosa di sospetto. Noi ranger che cosa ti hanno detto? Se vi hanno mandato qua, siete già entrati in contatto con loro sicuro. Non ho spiegato dei loro traffici nello specifico. Però ti hanno detto che farete parte dell'organizzazione o qualcosa, immagino. Si stanno ancora mettendo alla prova. Ci hanno mandato qua con lo scopo di liberare la zona dagli Etti. Ok, esatto. Sai perché? No. Non vi hanno detto niente? No. Non ci fidano ancora, ma io non so. Ok. Immagino per scopi commerciali, visto che la zona è su una tratta di scambio, però non lo so. Non proprio, qui siamo in mezzo alla foresta. Diciamo che questa zona qua servirà... Senza stare a girare il lago? Servirà agli orchi. Ah. Gli orchi servono per fare il lavoro sporco. Praticamente... E i nani? Cosa c'entrano con gli orchi? I nani vengono utilizzati nelle miniere che ci sono nelle montagne per recuperare oro e materiali preziosi che vengono poi smerciati e utilizzati. C'è dietro un'organizzazione. E voi come siete? In che posizione vi trovate rispetto a queste cose? Dobbiamo... Non mi hanno detto nulla dal nostro ultimo incontro, dopo tutto. Certo. La situazione è questa. Neutrali per gli scambi commerciali. Non sappiamo bene chi c'è dietro. La colonia quindi non è la colonia che comanda anche sugli orchi? No, la colonia non comanda niente. No, nel senso non sono i ranger che comandano sugli orchi. No, gli ranger sono solo una parte del gioco. Il grande gioco. C'è questa organizzazione dietro. Da quello che ho scoperto io stando qua, pare che utilizzino questo simbolo. Ti dà una pergamena, sostanzialmente un pezzo di... Non ti eri preparato, non l'hai già disegnato? No, però non so fare. Male. Sì. Allora adesso devo fare di merda. Merda. Ti fa sto simbolino qua. Potevi farlo anche più grande. Babbuia. No, questo non l'avevo mai visto. Un po', no? Veramente un po'. Ok. Ma non ci sei. O meglio. No, quello del gufo lì era diverso. No, quello è il loro simbolo. Questo simbolo qua, tu l'hai visto in realtà. L'hai visto nella visione. Wow. Ok. Ma l'hai visto su una torre in una visione. Mm. Quando avete fatto la visione, sì, lì, sì, sì. Era sulla torre. Però non sai cosa significa. Va bene. È quello che sono riuscito, cioè almeno ho visto questo simbolo in giro, ma non so bene. In giro dove? Su dei luoghi o delle persone? Mm? Su dei luoghi, oggetti o persone? L'ho visto su delle casse. Ok. Che arrivano da... dalle miniere? No. No. E vabbè, sì, anche in altri punti legati alle miniere, eccetera. L'ho visto un po' in giro. Quindi e penso che sia il simbolo dell'organizzazione che è a capo di tutto. Sicuramente è un'organizzazione che ha a che fare con la magia, ma molto potente, o comunque ha una certa potenza. Noi ci siamo entrati in contatto perché hanno interesse ovviamente nel traffico di oggetti magici, eccetera. Ma non abbiamo avuto con loro qualche scambio. Non avete non ci fidiamo più di loro perché stanno diventando troppo potenti. Hanno messo su un'organizzazione troppo potente perché i pirati fanno capo a loro. Una parte della colonia, l'organizzazione della colonia fa capo loro e non sapete dove sono. E poi c'è questo traffico di oro sotto banco senza che si sappia nulla. E non sapete dove sono? Io non so dove siano. E ero nell'organizzazione dei Ranger. Allora come fai a dire che sono nel luogo sbagliato qua? Perché non sono, cioè perché ora io sto più da questa parte perché non posso più farmi vedere in determinate situazioni, quindi devo essere un po' più un po' meno visibile. Va bene, va bene. Però questa è la situazione, quindi mi stai dicendo che dalla colonia comunque c'è è arrivato il bamboccio. Vabbè, tanto lui non capirà un cazzo, però potrebbe essere una buona occasione per te perché sicuramente porterà scompiglio nella colonia e potrebbe essere una buona occasione per far percepire che sei dalla parte dei Ranger e per poter entrare nel giro e capire qualcosa di più. Va bene. Se non c'è altro, grazie dell'aiuto e ci sentiremo. Ok, per il resto voi cosa avete fatto? Quindi vi hanno portato su? Tu non hai notato l'unica cosa nessuna che... cosa di trasporto delle navi che in questo è stato o nulla? Cioè prima di arrivare qua? In realtà no, perché avete tirato bassissimo. Nelle navi per arrivare qua? Sì. Beh, a parte la ciurma fantasma che ci ha seguito. Esatto. Mi viene in mente quello. C'era una nave che ci ha seguito per un tratto. Vabbè, quelli erano i corsari che avranno voluto il loro... No, nient'altro. Il loro tributo, immagino. Ok. Sì. Però io credo che non si trovino qua, nella foresta. Penso che siano più a nord. Più a nord. Mm. Ma non so dove. Adesso noi avevamo questo compito qua e da come ho visto è finito. Non ci sono più Ettin. No. Quindi vedremo cosa dirà Nerenza dal nostro ritorno. Però sì, l'importante è che cioè ti consiglio di tenere i tuoi compagni all'oscuro di alcune informazioni, cioè non fidarti troppo di loro, ecco. Usali, ma non fidarti troppo. Non si preoccupi, facciamo così. Prima o poi qualcuno finirà di salvare la gente. Anche perché capito, Sir? Ma io non sono come mai nato contro di te. I corsari mio padrone sono da loro parte. Bravo. Diventerai discepolo numero due. Da quello che dice non è più un corsaro. Discepolo numero uno è questo. Diciamo che forse vuole semplicemente scalzare il corsaro. Beh, può essere, ma anche questa cosa potrebbe fare comodo. Una volta che sei un pirata non torni più. Questa cosa potrebbe fare comodo, un cambio di comando, no? In ogni caso. Potrebbe fare comodo, sì, anche, effettivamente, potrebbe. Va bene. Io mi sono ripreso nel campo, in quello dove ero adesso, ero svenuto prima. Sei nella foresta in questo momento. Riesco a vedere da dove sono arrivato per tornare verso il campo di battaglia di prima o no? Se no lo chiedo a lui. Potrei cercare le tracce. Dice, beh, penso che tu possa seguire lui. Eventualmente le tracce. Okay. Non sei lontano. Se no aspetta. Ma che tu e i compagni che ha battuto ti recuperino, forse lo faranno. Quanti erano gli attim che ha battuto? 3 o 4, ma non mi sa che male. Sì. Non mi ricordo quanti erano scappati. Non ce lo so in realtà. Erano scappati. Boh, in realtà qua ne ho messi 2, poi più magari qualche altro donna e bambino. Quindi poca roba. Va bene. Allora. Vedi tu, forse ti può convenire inventarti qualcosa. Tipo che sono scappato e infatti mi dirigo indietro. Per non. Sì. Ricordati che tu non mi hai visto. Chi sta parlando? Recuperare armi. Recuperare armi. È vero, avevo solo la cosa di. Ah, questa è la tua roba. E si dice c'è un. Vuoi tagliare corto? No, beh, c'era un sì, sì, sì. Va bene. Te ne hai già ridato. Va bene. Ora è tempo che io vada. Dovessi aver bisogno di me, cercherò di trovarti io. Questa zona ho capito che è sotto la supervisione. Sì, beh, adesso dovrò avvicinarmi un po' più alle zone calde, indubbiamente. E dopo tutto sta arrivando l'inverno. E vado via. Va bene. Ok, mi incammino. Ok, mi fai un sopravvivenza e direi che noi contemporaneamente stiamo facendo la stessa. Voi ancora non siete partiti. Voi ditemi che cosa fate. No, le intenzioni sono le stesse. No, 20 di dado. Ventello? Mamma mia, nessun dubbio. Appare di fianco a noi, tipo. Tu dove? Ah, niente. Vedi, senza scatola i tiri vengono fuori. Io. Il piano era seguire un po' le tracce di questi qua e poi immagino riposarci per sferrare l'ultimo attacco una volta che sì, dopo aver parlato col nano l'idea era di vedere dove la direzione, provare a seguirli per un po' e capire quanto velocemente si sta muovendo. Ok, quindi il nano lo lasciate andare con la renna? Sì, sì, sì. Ok. Intanto gli ho indicato dove può andare per avere un posto. Sì, lui vi chiede un po' di informazioni esatto sui ranger, dove i loro spostamenti, eccetera, e poi si dirige. Ah, gli lascio un pezzo di pergamena con il simbolo, col mio simbolo. Ah, ok. Se nel caso passa al villaggio. Va bene. E così si inizia dal basso. Ok. Così se un giorno si ricorderanno. Ok. E va bene, quindi Filippo invece non si vede per il momento. Ne faccio un survival per capire le tracce. Vai, qualcun altro l'aiuta? Io. Non vedo perché. Allora dategli un vantaggio, tira un altro. Un effetto di survival. Buoni. 21. Ok. Sì. Ok, trovi le tracce, seguite le tracce. A un certo punto Laz, fammi un perception. Voi andate stealth? No, normale. Normale, sì, però 15. Però aspetta, però a piedi. Cioè portiamo a mano le renne. Perché comunque ci abbiamo le tracce. Okay, quindi okay. Ha senso, no? Noi andiamo normali, ma non stiamo correndo a capovito, cioè seguiamo. Certo, sì. certo. A piedi, ovviamente, immagino. Io ovviamente non corro perché sono messo male, però tu mi muovo velocemente. Più velocemente in avvicinamento. Mi nascondo nello cespuglio. Preparo la freccia. Perché? Giustamente. Noi ne sentiamo una cippa. 27. No, non lo troveremo mai. Arriveremo, arriveremo al campo degli etti morti. Non c'è possibilità. Va bene, a un certo punto sei nascosto, vedi sostanzialmente che stanno seguendo le tue tracce, vedi loro tre con le renne. Aspetto che passano e faccio un buo a lui. Come glielo fai? No. Però aspetto che passano, sì, nel senso, per essere sicuro che siano loro, e appena sono passati esco fuori e li chiamo. Ok. Sono qua. Cacciamo loro le renne e scappano. Così. Vabbè, le renne con noi. E ce le abbiamo lasciate. No. Assolutamente con noi. Anche perché Ciccio ne hanno tornava a rubarci anche quelle. Cosa è successo al campo? È quello che ci stiamo chiedendo tutti. Non so, raga, vi siete trovati, datevi qualche cercate un po'. Io come sei liberato? Io sono arrivato e ho trovato voi che combattevate. Sono svenuto, mi sono ritrovato in un altro campo. Sei riuscito a liberarti dagli etti? Inside. È vero. E io sono arrivato che combattevate a sto punto, visto che la colpa non è mia della freccia, come ho capito. È una cosa giusta quello che ho detto. Freccia. No, e questa era vero, una... cazzo, è vero che voi lo dovete ammazzare. No, adesso, per sua fortuna non abbiamo testimoni che l'hanno visto. Esatto. Però, ma tu dici... Però. Possiamo chiedergli, hai visto chi ha scoccato quella freccia? Io sono arrivato che stavate combattendo, eravate in mezzo a un lago in piedi. Come funziona? Ci fai non so come inizia. Beh, no, è vero, in realtà sono arrivato che era lì. Qua in realtà io ho sparato al capo. Qui è la coscienza. Non ci sono tiri contrapposti, diciamo che voi... Ah, questa è vera la cosa, ne ho dette molto di peggio. In mezzo alla foresta, a una foresta disabitata. In quella sessione non c'era, vero? Da esseri umani. Io non c'ero in quella sessione. Hai capito che... Dopo che io ho sconfitto il capo a singolar tenzone, è arrivata una freccia che ha ucciso un bambino e quindi ci ha attaccato. La freccia sembrerebbe di fattura, diciamo. Io non mi ricordo se ti avevo detto di sì o di no, che ero stato io, perché me l'avevi chiesto, però a questo punto mi hai detto che tu mi hai detto ero di stato io. Tu mi hai detto di no, e quindi ho creato. Ok. Di conseguenza. Quindi va bene. C'è il gesto più bello che tu abbia mai fatto. Chi ha scoccato quella freccia? No. Mi commuovo. Vuoi fare a metà? Ho mangiati tipo 25. Anche perché ormai non. Per cui sì, grazie. Stavolta poi ho risposto bene, non mi potete dire nulla. Adesso non la puoi rifare la domanda. Hai chiesto, hai visto chi è sparato? No, non mi hai chiesto se so chi è che ha scoccato la freccia. Sai chi? Aspetta. Tardi. Cerchio di verità. Beh, no, è vero. Mi hai detto se hai visto, e io non l'ho visto. No, ma dovrei poi quando si parla con te cerchio di verità. Ci hai fregato troppo. Non puoi saperlo. Motivi, esatto, per non puoi saperlo. No, ma io ci credo che tu non l'abbia visto. No, non puoi saperlo che io vi ho fregato in vari motivi per come stiamo gestendo questa cosa. Quindi no, non per quello che è successo adesso, per il passato. No, per il passato lo so, cioè lo sospetto. Come hai fatto a fuggire da lì? Tipo per la storia delle moniche. No, non le ho prese io. Vabbè. mi sono risvegliato legato in un accampamento e c'era un'arma di fianco a me, mi sono riuscito a liberare tagliando le corde. E hai ucciso gli etti No, sono scappato in un bosco senza farmi vedere. Bravo. Qualcuno ogni tanto si riesce. Vabbè, ci sta, in realtà conoscendo le sue abilità ha anche abbastanza senso. Beh, possa essere possibile. Beh, gli etti non sono di certo dei geni, quindi tutto è bene quello che finisce bene. Ok, ci devi una regna, dov'è? No, scherzo, non te lo dico. In futuro però ti consiglierei di stare più vicino a noi in modo da non rischiare così la tanto. Prossima volta non toglietemi le mie maledizioni. È qualcosa di un controsenso. Vabbè, ok. Detto questo, stronzo. Detto questo, vedi che cazzo facciamo adesso? Torniamo al campamento. Sì, però cioè io ho tipo un punto ferita. No, le informazioni no. Dal punto che avete infatti stavo ragionando, cioè dal punto di vista fisico dobbiamo riposarci, ok. Ok. E direi che la caverna grotte degli che abbiamo appena liberato, anche se in realtà dovrebbero arrivarci gli orchi, quindi questo lo sto dicendo da giocatore a giocatore. Torniamo alla caverna. No, in realtà lo sai anche da personaggio. Sì, però non lo abbiamo ancora detto a lui. Ragazzi, torniamo. No, me l'ha detto anche il tipo. Cioè, in realtà lo so. Ma noi non sappiamo che io lo so. Torniamo alle caverne, riposiamo e poi torniamo indietro. Ok, mentre torniamo verso le caverne, io comincio a. Se vuoi, puoi cavalcare con me. Così intanto ti racconto un po' e ti aggiorno un po' su quello che. Devo fare un insight perché non gli credo. Beh, ti hanno appena detto di non fidarti di noi. E gli racconto, guarda. No, aspetta, però noi abbiamo un lavoro da finire. Non deve uccidere altri etti, basta. Ma quindi scusami, sì, dobbiamo l'avete visto, l'avete visto prigioniero? No, dove l'accampamento? No, hai ragione tu, scusa. Dov'è l'accampamento? Ci ha giocato malissimo, è uscita libera. Dov'è l'accampamento? È esattamente dietro di me. Che l'ho trovato. Beh, se legato vicino ad un'arma e si sta liberare da scappare. Ha ragione. Ridagli l'inspiration. Vabbè, no, fisso, è vero, abbiamo giocato malissimo dicendo sì sì, torniamo a riposare. Se in tu ce l'hai gliela puoi regalare. A che distanza? Perché secondo noi gli etini sono vivi. A che distanza è? Stato fatto una buona giocata. Non lo so quanto distanza. Ridagli l'inspiration. Ridammela. No, vabbè. Chi sei? Io, chi vuoi? No, va bene. Devo vabbè. Fare il lecchino, il mio capo ormai, il mio padrone. Cazzo, tra l'altro, ti ricordavi anche il nome del personaggio. Sì, tu altri devi ricordare. Non ti ridanno neanche lo scrigno. Tutti tranne il mio, perché per me lui rimarrà sempre Psyfer. Psyfer. Sai un po'. Sì. No, sai. Non lo so, chiede lui quanto tempo è passato, quanta distanza ho fatto. Non lo so. Prima che arrivaste voi. Cioè, a quanto dista l'accampamento da cui lui si è liberato? Ah, qualche ora. Ah, sopra. Sì, ormai è quasi notte. Invece dalla caverna quanto c'è? Sempre qualche ora? Solo che c'è molta luce, cosa detto, giusto. Il giorno. Quindi adesso le giornate sono lunghe. Anche dalla caverna c'è qualche ora. Quindi, più o meno. Le caverne e sono dove era l'accampamento. Sì. Siamo a metà strada tra le caverne e l'altro? No, l'accampamento che abbiamo chiesto adesso è no, il quello suo. No, quello dove mi ha portato. È scappato. Quello ah, vabbè, ma quello non era un accampamento sì, proprio, era no, semplicemente si erano appoggiati lì. Che distanza ah, da lì io... Fai conto una mezz'ora. Allora ti direi di andare... Oddio. Un'oretta. Quanti erano? Una mezz'ora. Cioè, allora... Quanti ne hai visti? Ho visto... Tu hai camminato un'ora, probabilmente è una mezz'ora, solo che sei messo male, sei lento, eccetera. Di quelli che combattevano non c'era praticamente nessuno, erano donne e bambine. Feriti. Perfetto. Le indicazioni erano di farli fuori tutti. Il nostro compito... Vabbè, nel frattempo ti curo. Vabbè, però posso dire una cosa. In teoria sì, era il nostro compito, però ora che abbiamo nuove informazioni non siamo più sicuri che il compito sia la cosa giusta da fare. Cioè questi etti non hanno motivo. Si possono comunque uccidere. Come no? Sono un sacrificio di sangue, un sacrificio di sangue. Sì, però. Non importa dove viene il sangue. Da giocatore, nel senso. 13 punti effetti. Cioè tu stai uccidendo degli etti per fare un favore a un orco. No, beh, per fare un favore a se stesso. No, adesso uccido gli Yeti per sacrificarli. Beh, in teoria a me, però voi non a me. Cioè, hai capito cosa volevo dire? Adesso sì, sappiamo sì, che è un po' diversa la storia. Ma poi uccideranno anche gli orchi, uccideranno anche gli umani. A me stanno simpatici anche gli orchi, non è che... Ok, però, tu cosa dici? Cioè, ha senso adesso concludere uccidendo anche donne e bambini di questi Yeti? Sì. Io sono stanco. No, ok, nella vita reale, però, vero? Cioè, dal lato etico, a questo punto... Non so se veramente dobbiamo per forza finire questo compito. Ma siamo più convinti. Noi facciamo una passeggiata a mezz'ora di là. Se vuoi rimanere qua, ti veniamo a prendere. Quando torniamo, non sai cosa abbiamo fatto. Cioè, per le informazioni che abbiamo adesso, non ha più così tanto senso farlo. Quello che non dobbiamo mai perdere di vista è di concentrarci sempre sul male maggiore. Se per sconfiggere quello occorre sopportare un qualche male minore, beh, quello sarà un sacrificio come dice il buon Quake, se dobbiamo farci amici i Ranger, dobbiamo eliminare tutti gli Yeti. Beh, noi possiamo dirlo che li abbiamo eliminati, in realtà donne e bambini possiamo anche lasciarli. E se poi lo vedono? Vedi, non pensi al futuro. Questi bambini cresceranno nell'odio, un giorno torneranno e vorranno vendicarsi. Ma sei serio o è una gag con me? No, lo sto dicendo davvero. Lo sto dicendo davvero. Poi il fatto che io gli posso uccidere male anche la prossima volta è un'altra questione. No, però no, la mia domanda era seria a questo punto. Allora, hanno perso i padri, cioè sono famiglie distrutte. Tu lo stai dicendo davvero. Non lo so. Uccidiamoli. Persuasio. In effetti ha senso, dobbiamo comunque. Questi sono gli manipolabili. Questi sono gli attimi che stiamo cercando. Dobbiamo salire di livello. Dobbiamo farci amici, Ranger e capirne di più. Adesso ha senso concludere. Questi sono gli attimi che stiamo cercando. Lo so, però andare a uccidere. Cioè, fossero altri. Gli Yeti sì, però donne e bambini alla fine non sono pericolosi. Gli mettiamo un'arma vicino ai corpi, così sono. Non sono pericolosi per ora. Per quello che. Questo invece è un topos della campagna di Ema. Sì, esatto. I bambini. Il bambino orco è cattivo, è buono, è grandi dubbi del gioco. In questo momento non vedo il motivo di uccidere queste donne e bambini Yeti. Voi sì. Sì. Sì, che poi lui in realtà no, dice che non gli conviene. Cioè, tu lo puoi fare, tu sei d'accordo, Quaker? Sì, io sono lì. Ma come? Cioè, nel senso, non devi farti sgamare, li porto via. Vabbè, io sono fuggito, erano vivi, non è che... Certo, ma c'è... Uge. Erano donne e bambini. Uge delle spie. Come ti dicevo, Sirron, devi di concentrarti. Non possono saperlo. Che non sono questi etti. Che grande risorsa. Per arrivare al mare maggiore, però, dobbiamo guadagnarci la fiducia dei Ranger. Ci arriva lì, okay. E ci sono dei cosi trappiti dalle frecce. Che gli etti devono le usare. Ammetto che fa fatica, ma anche io le uso quelle frecce lì. Ma sì, sono delle frecce normali che usi anche te. Vabbè, ti pare che io da svenuto li posso aver uccisi tutti? Appunto! Io sono scappato che erano vivi, poi non so cosa è successo. Allora, o ci mettiamo in caccia dopo aver riposato, o lo facciamo adesso. È che il mio personaggio è eticamente combattuto. Perché... No, vabbè, sì, perché... Il mio personaggio di base non stravolge mai quello che è l'equilibrio della natura, quindi se questi etti ne erano più, ormai è un po' tardino. Tardi. Ho capito, quindi... Allora, fatto un 30, conto... aspetta, 31. No, aspetta, cioè, un conto è civilizzare una zona, può avere un senso... Ma come? Beh, sì, può avere un senso. Ah, vabbè, sì, un conto è uccidere gli etti, perché così ci vanno gli orchi, perché così questi ci guadagnano poi di loro. Poi ucciderai gli orchi. Eh? Poi ucciderai gli orchi. Non è così. Però al tempo stesso. Tu dici che gli orchi ti picchieranno? Lo sappiamo però tutti. Però al tempo stesso do ragione a lui quando mi dice dobbiamo farci amici quelli. Però potremmo semplicemente tornare indietro e dire li abbiamo uccisi tutti, quelli cazzo ne so da che dove arrivavano. Io sono a metà. Non era i voti. No, non era i voti, però io non lo farei. Questo non sembra metà. A metà, perché una metà è... No, perché la metà che alla fine della fiera comunque lo trascinerete con voi, quindi... Sì, in sostanza. A meno che non faccia la sua side quest, cast solita. Cioè morire. No. Possiamo andarci adesso o domattina? Io sono stanco. Ok. Vabbè, se sono solo donne e bambini possiamo andare anche ora, non è quello che... No, vabbè, non è un problema di riuscirci o meno. È un problema di volerlo fare. Però a questo punto, d'altronde, faccio parte di un gruppo. Se la maggioranza dice che si fa. È strada. Ma sono stanco. Te lo curo. Oddio. Ah, magari. Saliamo? No. Come no? No. Come no? Non così stanco. 11. Più 5, 16. Mi scappa un forte sbadiglio. Vabbè, mi scappa un forte meglio. Sbadiglio. Per le kill perdute. Ho sonno anche io. Sto un po' meglio, ma di certo non mi metterò a correre non per so seguire. Quanto sonno io, seriamente. No, 12. Ha più vita di te, Arian. Vabbè, Arian, Eric. Anche Arian ha più vita di te, no? Ci andiamo, ma... Non sono a 267. Non sono a 100% né fisicamente né... Io motivamente 49. In questo momento di fare quello che faremo, quindi rimarrò nell'elettrovilla. Sì, sì, non come c'è problema. No, di solito non proprio contare. No, di solito va da un'altra strada. Esatto, non c'è problema, bene, sono donne e bambini, ho abbastanza incantesimi. Sì, però che dici le spalle. Cioè, ho tutti gli incantesimi di terza, in realtà. Sì, tutti gli incantesimi di terza. Chiedo cosa ne pensato Scrigno di uccidere donne e bambini. Non avevo usato incantesimi di terza. Cioè eri così full? No, ho usato tutti quelli di quarto, quelli di quinto, quasi tutti quelli di primo. Perché alla fine eri finito con la mano... Mi sembrava che tu avessi ormai esaurito. No, no. Avevo gli incantesimi di terzo pieni e quelli di secondo pure. Io li ho finiti. Anzi, tutti, no, per questo sono stanco. Vabbè, donne e bambini non devi mica... Cioè... dai, catta. Anche, anzi no, avevo usato uno di terzo ma non uno di quarto. Bravo. Va bene, quindi cosa fate? Ci incamminiamo. Vi incamminate. Di malavoglia. Ok. Allora, vi di fate un arriviamo. Ah, no, hai detto che c'è comunque luce anche stasera. Sì, sta cominciando a diventare. Vabbè, ci sbrighiamo. Tanto ci hai detto che è mezz'ora. Siamo subito lì. Allora, vabbè, andrete però immagino un po' più cauti, visto che lui vi ha detto che è vicino. Sì, senza fare troppo rumore. Volete lasciare c'è qui? C'è già di stealth o no? Aspetta, volete lasciare le renne? Posso fare io la prova di gruppo? Aspetta. Come sempre. Le renne? La prova di gruppo le fanno tutti. No, le renne lasciano. Cioè, la prova di gruppo la fanno tutti, se la passa a metà la passano tutti. Aspetta, ah, okay. Le renne le lasciamo qui dove siamo adesso prima di partire? Sì, non ce le portiamo, certo, dietro. Ok, ci ricordo, cioè nel senso... Leghiamo qui un albero. Ok. Andiamo. E se passo un attimo nel manzo? Così vai. Sapremo dove vanno. Stealth di gruppo. Ah, io 19. Anzi no, 24. Che poi sono nulla, sta facendo che sarebbero morti ieri. Beh, nessuno lo può sapere. Nessuno lo può sapere. Oh. Tutti tiri altissimi, ovviamente. Oh. Ok. Metà del gruppo lo passa. Va bene. E ora mi fate un perception. 13. 20. 7. No, 9. 12. Allora, chi è che ha fatto 20? Anzi, no, 14. Quakert, tu sei il primo a notare che poco più avanti c'è una piccola, non proprio radura, ma insomma un fratto tra gli alberi e ci sono dei corpi stesi. Li vedete anche voi. E avete l'impressione che siano degli Ettin che probabilmente si stanno riposando. Però tu, Quakert, da come li vedi stanno disposti, riposando molto profondamente. Esatto, ti sembra che stiano riposando un po' troppo. L'invidio. Sono donne e bambini. Ci sono, diciamo, gli Ettin che erano sicuramente riusciti a scappare del combattimento e qualche donna e bambino di Ettin, ma secondo te quei car sono sostanzialmente tutti morti. Il mistero si infittisce. Mi avvicino ad esaminare i cadaveri. Ok. In stealth. Ma a questo punto. Non che prima facessi più di sempre. Metti che fanno come gli opposti. Prova di medicina sui cadaveri. Poi si vede di che morte sono morti. No, per capire qualcosa in più. Che sono stati colpiti da una freccia. Tipo quanto tempo fa è successo? L'autopsia. Sì, non è stata andata. Allora, tra un po' la farai, comincia a smembrarli per i tuoi rituali. Vabbè, quello dopo. L'autopsia. 16. No, anzi. 19. Sono stati tutti sfrecciati. Allora, secondo te, Giulio, da quello che vedi... addirittura un 20, perché era più 4. La tua ricostruzione è che probabilmente i due Ettin più grossi, per qualche motivo, sono venuti alle mani, e però con delle armi, e si sono ammazzati tra di loro, da quello che mi sembra. Oh. E gli altri Ettin probabilmente volevano sono imitarli. Stati ah, no. sono stati anch'essi colpiti dai, dai due. Ah, quindi questi due sono tipo impazziti, tra virgolette, hanno ucciso. Cioè, come se fosse stata una mega rissa tra tutti loro, si fossero ammazzati. L'hai fatto scappare tu, l'hai fatto scappare. No. E da quanto tempo è successo? Molto, molto recentemente. Qualche ora, presumibilmente. Ancora cioè, qualcuno, magari, non è tutto morto. Beh, più o meno sembra che siano morti quando tu sei scappato. E quando sono scappato erano vivi. Sarà. Di sicuro nella mia condizione non potevo ucciderli. Ne riparleremo. Se fosse stato questo piccoletto a fare da solo il suo casino, non avremmo più bisogno di combattere, non pensi? Una voce della verità. O forse. Scusa. Fagli un altro rimuovi maledizione per sicurezza. Lui li vedrebbe. No. Da quello che vede lui così. Cioè so che non dovrei saperlo, però è curiosità. Lui se, da quello che vede sembra che si siano proprio mazziati tra di loro. Sì. E no, cioè, è stata una copertura molto buona perché 20 in medicina ho fatto evidentemente cioè, ovvio, anche poi, se l'avessi ovviamente noi non sappiamo che tiro hai fatto però tu sei ragionevolmente no, non cambiava nulla nel senso sapendo io giocatore poi il mio personaggio non sa i personaggi sono picchiati a morte cioè. Sembra che siano diciamo sì picchiati a morte poi sono finiti ci saranno queste rocce sono finiti lì insanguinandosi. Beh, il mio dubbio etico è stato risolto. Sono tutti morti, quindi va bene. No, è questo dovuto, il dubbio etico. Non ho dovuto decidere io per loro. Ma l'ho deciso da soli, a quanto pare. Non problema di soldi. È stato no, un suicidio no. Torniamo indietro. Beh, potremmo riposare qui. Potremmo vedere se sono un tesoro. Ah no, hai detto che non ho in mezzo dei cadaveri, torniamo a... Riprendiamo... Ma ci vogliono delle ore, viaggiamo di notte. Riprendiamo le renne. Stai imbrunendo. Con le renne, guarda, tempo guarda che abbiamo fatto. Abbiamo fatto tutta la strada a piedi. Se la facciamo con le renne, non più. Hai ragione, sì. Potresti, dovresti sì. riuscire ad arrivare vabbè. Proprio a all'accampamento addirittura. Sì, no, oh. Alle grotte, no? Accampamento. Ah, alle grotte, ok. Cioè, è la stessa cosa? No, è l'accampamento. Ah, no, il bambino. Andiamo alle grotte. Ci arrivate poi, sì, col buio. Ovviamente, ci organizziamo coi turni di guardia. Ah, ti ho detto prima che lo aggiorno su quello che ci hanno detto, vuoi che gliele ripeta, che lo vuoli o... Che cosa? Del nano e tutto. Beh, dimmi che cosa gli dite, ditemi perché? Che cosa gli dite però. Allora, sì. Dopo aver liberato l'accampamento e le caverne, abbiamo trovato un prigioniero, ho trovato con la mia super vista. Che è? La vuole vedere il mistero, si infittisce, disse... Mm-hmm. Sherlock Briga, salutiamo l'amico. Niente, dico che abbiamo, io con la mia super vista dentro la caverna ho visto, ho notato questo nano, questo nano grigio. Deception fallita automaticamente. Esatto. E vestiva di stracci, aveva solo qualche pepita d'oro in una tasca. Diciamo tasca. E praticamente... ci ha dato... quindi gli dici che vi ha dato una pepita d'oro? Beh, gli dico... no. Ah, che tra l'altro potete aggiungere al tesoro. Del valore di? Del c'è valore d'oro, di... Non cambio di cosa c'è dato una pepita d'oro. Della renna. Anche... no, la renna ce l'ha pagata con le informazioni, ha detto. E la pepita d'oro. Ah, ok, tutte e due. E poi vi ha chiesto un po' di informazioni sui Ranger. Ci ha dato... il valore sentimentale della sua pepita. Separazione alla, dalla pepita. La pepita, io ve ne avevo data una volta, che non mi ricordo dove l'ho trovata, tra l'altro. Beh, comunque ci ha raccontato 500. Informazioni piuttosto sbalorditive dal nostro punto di vista. È una pepita da 50 monete d'oro. Ci ha raccontato che c'è un grande gioco, in pratica, sì. In cui le parti sono diverse. No, vabbè, se mi dici tutto, di a lui che mi dici tutto. E... cioè, vabbè, però lui vuole no, sapere no, esattamente sapere cosa. No? Praticamente, il compito che avevamo noi era uccidere gli Ettin qui. Noi pensavamo per liberare la zona a favore della colonia. In realtà, no, questa zona, infatti stare qui secondo me stanotte non è perfettamente adeguato, però lo faremo. In realtà questa zona verrà presa dagli orchi. Gli orchi che gioco, che parte hanno in questo gioco? Gli orchi, come abbiamo intravisto, sì, c'era anche lui ancora quando abbiamo intravisto i nani, sì. Sì, sì, sì. Come abbiamo visto, tu non c'eri in realtà. Come abbiamo visto, gli orchi rapiscono i nani e li portano alle miniere, dove i nani, sotto minaccia di morte, praticamente scavano e tirano fuori oro e altri materiali. Ma su richiesta dei ranger. Questo nano era affidabile? Beh, questo nano sembrava sincero, soprattutto facciamolo insieme magari, una volta. Era, magari era stato rapito dagli Ettin. No, ci ha detto di essersi praticamente consegnato lui gli Ettin in cambio della loro protezione, di fatto, stando loro prigionieri. Sembra molto strana questa cosa. Sì, però stando prigionieri. Tante cose sembrano strane. Sì. E noi non facciamo domande. Di fatto domande. Non era in mano. Beh, loro. Questo è un NPC. In tutto questo si aggiungono anche i pirati. In effetti voi non ci avete pensato. Che lui potesse mentire. No, che magari non era l'unico motivo per cui è stato a prendere gli Ettin. A distruggere gli Ettin. Cioè, quando ci è andato la missione, diciamo, non c'è venuto nessun dubbio. Cioè, non avete avuto il dubbio. Beh, se lui poteva essere parte della missione, però non vi sto detto. Non so. Ah, lui. Ah, ok. Questo. Non è stato detto, non è parte della missione. Boh, in realtà può sembrare abbastanza casuale il fatto che lui fosse lì. Okay. No. Avete trovato un nano? No, esatto. Ah, giusto, quindi se ci chiedono se abbiamo trovato un nano, la risposta sarà da dare. Beh, visto che nani? Io adesso parlo da esterno perché non c'ero, però visto che avete fatto lo scambio informazioni eccetera, e lui non vuole tornare alla colonia, per nasconderlo non dovete dire che l'avete trovato. No, assolutamente no. Non avrei, cioè, se l'abbiamo aiutato a scappare, è un po' stupido che l'abbiamo trovato. Cioè, se noi, dato che lo abbiamo aiutato a scappare, se poi gli dici che esiste, vuol dire che mettete gente. Noi non abbiamo saputo nulla di questo nano, quindi noi non abbiamo visto questo, esatto, nano. Sono d'accordo. Tu non mi conosci. Tra l'altro non ha importanza. Non ha importanza. Si chiama non ha importanza. A questo grande gioco si aggiungono anche i pirati sotto il comando del corsaro dei ghiacci, o bianco o di ghiaccio. Da quando è che ti fai chiamare così? E deportano. Da quando in una torre ti sei montato la testa. Deportano qui, come è capitato a questo tizio che è del continente. Detto questo, in cambio delle informazioni gli abbiamo dato una renna. Ma voi siete pazzi! Per dire qualcosa, ah, sì. Gli abbiamo dato una renna e gli abbiamo consigliato. Hanno avvelenato il pozzo. Gli abbiamo consigliato di rifugiarsi dal villaggio. Sono Buzz Lightyear che abbiamo salvato dall'idra. Strana sta birra, catta. Sì. Boom, infatti. E un po' così. Cos'altro ci ha raccontato? Di Cantabria. Ci ha raccontato. Infatti, ci è venuto il dubbio: come cazzo è possibile che gli orchi facciano parte di un gioco così sopra la loro media intelligenza, così grande forse. Lui ci ha risposto che ci sono questi esseri oscuri incappucciati che in qualche modo comandano o convincono gli orchi ai loro servizi. Sono bellissima una bitter, da qui il gusto un po'. Voi avete altro da aggiungere? Che se diremo ai ranger che lo abbiamo incontrato, no, ovviamente a questo punto non possiamo dirlo, è ovvio. Sicuramente lo cacceranno per riportarlo nelle miniere. Sarebbe un ottimo modo per recuperare la renna. Nuova missione, tornate indietro e cercate il nano. Aspetta, se diciamo che l'abbiamo incontrato, ci una pepita uscita, non dico so bene dove andare. Non ci conviene dire che l'abbiamo incontrato. Qualcuno segni che abbiamo una pepita d'oro. Sì, io segno. Secondo me non ci conviene dire, non l'abbiamo mai incontrato, basta. Anche perché se noi gli diciamo che l'abbiamo incontrato, loro possono pensare che lui ci abbia raccontato quello che in effetti ci ha raccontato. Mentre invece è meglio fare l'ignori sia. Oppure abbiamo trovato un nano morto. Se volete dire qualcosa, no? Però dovremmo andare a prenderlo e ucciderlo. Vabbè, quello è il meno. Abbiamo incontrato un nano morto. O magari proprio perché sapeva. Se noi andiamo a dire ai tizi che è morto, ci conviene andarlo a uccidere veramente. Oppure l'abbiamo ucciso. Se il nano noi. Non è arrivato al villaggio che gli hai detto, ma l'hanno preso prima i ranger. Non uccidermi i ranger. Oppure l'abbiamo ucciso noi. È un po' noi, complicato. Visto non che è che possiamo uccidere e fare tabula rasa delle colonie così nessuno sa più niente. Cioè. Ma perché no? Siamo qui apposta. È un po' complicato. In realtà, sì. No, in realtà adesso... appena prendo controllo atmosferico è quello che succederà. Io credo che la cosa migliore adesso sia continuare a far finta di non sapere assolutamente nulla né del nano né di tutto il piano che oppure c'è dietro. Oppure, come suggeriva il master, dire che visto che il nano che abbiamo incontrato sapeva cose, l'abbiamo ucciso. Ringraziamo i ranger. Okay. Ranger perché sappiamo i loro scopi. I ranger trovano il nano, sanno che abbiamo mentito e non si fideranno più di noi. Noi questa manfrina come fanno a capire che era quel nano? Aspetta, magari no, i ranger non lo sapevano che lui era lì perché se no magari pure rischiavate di avere le informazioni. Aspetta. Metti che i ranger che diciamo ai ranger che abbiamo trovato un nano. Noi non abbiamo trovato un nano. Punto. Secondo me è la cosa più ovvia, anche perché se l'abbiamo trovato e l'abbiamo ucciso, magari ti rispondono che cazzo l'hai ucciso. Perché ci ha raccontato delle cose per toppargli la bocca sulle vostre intenzioni e facciamo capire che sappiamo le loro intenzioni. Io invece credo che la cosa migliore sia non far capire che sappiamo le loro intenzioni. Così. Vabbè, dobbiamo infiltrarsi nei loro affari. Ma già sono stati interessati. Quindi basta tenere. Io credo che loro sono più contenti se torniamo indietro e gli diciamo abbiamo eseguito gli ordini, nessun problema. Abbiamo seguito gli ordini, ora gli orchi possono passare. Mandate pure gli orchi. Libera. Ho trovato un bellissimo spiazzo per Orktown. La nuova Orktown. Ciao. Sì, credo che sia la cosa migliore. Dice che New York. New York. Vabbè, organizziamo, direi che andiamo a riposare. Va bene. Se siamo arrivati. Arrivate all'accampamento. Sapete che ci sono delle rocce. Vabbè, le regne le lasciamo. Verticali come pareti. No, per passare. Così si possa camminare solo dal lago. Possiamo portare nelle caverne che ci fanno anche caldo. Sì, certo. Le rocce. Potete. L'unica cosa, quando arrivate lì, notate chiaramente che c'è il nano. Probabilmente un fuoco acceso nell'accampamento. È quello che ho usato per cucinare. 2 più 2 andiamo. Siamo già lì, io lo vediamo da lontano. Voi siete ormai in prossimità delle, diciamo, delle rocce caverne che stanno faccio attorno super perception all'accampamento. Se posso. Sì, certo. Può vedere, ascolto. Sì, dipende, a meno che tu non voglia scalare le rocce in verticale. Non è ancora salito. Se posso farlo tipo così. Senza farmi vedere, sì. Beh, no, come avevate fatto, in realtà potete fare. Ehi, possiamo fare l'entrata in scena con la barca stavolta. No, però mi puoi fare un tiro di ammazzare più queste cose. Entriamo così. L'altra effettivamente, i ranger non ci hanno detto che gli orchi dovevano. Hanno una barca. Dovevano sostituire gli Ettin, quindi noi possiamo dire. Abbiamo trovato gli orchi e li abbiamo ammazzati. Ehi! Beh, sarebbe ben divertente, però dai, facciamolo. Vabbè, bello. In effetti siamo totalmente ignari dell'arrivo degli orchi. Quindi sì. È che dobbiamo se arrivano gli orchi, cioè, anche perché io mi difendo, nel senso non è che è roba vostra. Se l'ha detto lui, difenderci. No, questi prima di arrivare dovranno sapere che gli Ettin non ci sono più, non è che compagni. Finché noi non andiamo a dire che gli Ettin non ci sono. Guardiamo chi c'è nell'accampamento intanto, dai. Andiamo a una va scoperta i membri più fortissimi. Ok, fammi un perception. 11. Allora, nell'accampamento c'è un fuoco acceso, ma non c'è nessuno. Non c'è nessuno perché non lo vede? Esatto, la grande domanda che ti Eric, vai tu. Allora, torno indietro e dico, il fuoco è molto vivo, si sta per spegnere, questo lo riesco a capire. È abbastanza vivo, sembra che non sia stato acceso da tanto tempo. Quindi c'è qualcuno che l'ha appena acceso o che lo sta tenendo buono. Che si è stettato male. Al centro dell'accampamento, verso le caverne, stealth, direi. Verso, diciamo, l'altro lato del... del davanti. Ci avviciniamo furtivamente con la barca. In realtà potremmo arrivare dall'acqua camminandoci sopra, tra l'altro. No, no, esatto. Ci dobbiamo riposare e tra... Allora, vabbè, io torno indietro e dico, il fuoco è acceso e vivo, ma non... Sembra... addosso delle altre rocce, ma... ma sembra non esserci nessuno. Però se è vivo, comunque... no, terzo livello, io ho finito. No, no, qualcuno? ne ho ancora due. Sì, possiamo camminare sull'acqua. Aspetta, ragioniamo su... non usarli per questa cosa, se dobbiamo allora combattere. Di solito li spreco per incidere il mio simbolo sulle... Ragioniamo su chi potrebbe esserci. Io direi, visto che non hai visto niente da così lontano, facciamo la prova di gruppo per andare furtivamente. I corpi degli Yeti sono ancora come li avevo lasciati. Lo sto chiedendo a te. Sì. I corpi degli Yeti. Sì. Sembra tutto lasciato così, solo che c'è il fuoco acceso. Sì. Non c'era carne. Facciamo? C'era dai, solo fuoco. Niente. Stealth. Sì. E poi facciamo tutti perception quando siamo più vicini. Sì. Dove volete andare? Sopra o di lato? Io andrei di lato. Sì. Pronti eventualmente così ad entrare direttamente, giusto? Andando di lato. Andate di lato, correndo senza renne. Ma come correndo? Andiamo... correnne o senza renne? Correndo con le renne o correndo sulle renne o, col... correndo o per le renne? O tra le renne? No, le renne le lasciamo su... No, le renne lasciale qua. Oppure vanno davanti le renne, tipo... Buona idea. Così, date fuoco a una renne. E un'altra è vero. Poi fagli i gatti giù, ritorni sull'altra, sennò si spegne. Tutti su una renna. Oh, però le renne... cosa è successo esattamente? Le renne infuocate che caricano arrivando dall'acqua, però. Fai camminare sull'acqua le renne. Ci diamo fuoco. Beh, spettacolo, non possono spegnersi. Vedi la renna che ha sete, sbatte il muso, è bellissimo. Vabbè, detto questo, sì, dai, stealth di gruppo. Vai. 25. Oh. 13 2 quindi perché 2? Quindi 2 sì, 4 meno 2. Non ho capito carta cosa fa. 2. 2. Ah, scusa, 3, 4 meno 1. 2 3 13. 2 3 13 25. Ok. Se il 13 passa, metà del gruppo ha passato, altrimenti no. Ok, arrivate lì. Io e lui ne facciamo un perception tutti. Andate col perception. Pila 25 13. Vedo anche lo stesso. Ehi, sto andando stealth. Mi sono visto. Crit. Ok, non vedete il fuoco e... non vedete il fuoco. No, vedete il fuoco e non sembra esserci nessuno all'accampamento. Grazie. Tipo, vabbè che non ho il tempo proprio di guardare. Siete per ancora terra, lontani. Con 25 non si vede niente. O sono tutti nascosti. Siete ancora o... lontani. Nell'accampamento non vedete nulla e neanche sopra. Forse nella caverna. Di fianco a noi? Forse sei rifugiato. Il soffitto, il soffitto! Vabbè, andiamo a sto cazzo di campagna. Okay, siamo messi tutti a culo, Giulio, ti ricordo? C'è un fuoco, quanto è grande sto fuoco? Un acciaino, un falò. Un fuochetto. Non è lo stesso che ho acceso io prima. Ho capito, ma dove vediamo? Nel senso, non è che c'è un'armata. Lanciate qualcosa in mezzo all'accampamento, aspetta, vediamo se qualcuno si muove. Aspetta, fin dove vediamo? Manda il cane. Lo scherzo dove c'è il fuoco. Sì. Verso le caverne, per noi è buio, quindi. Dentro non sapete cosa no, c'è. No, non dentro, però all'ingresso, fino all'ingresso delle caverne vediamo. L'AS direbbe che non c'è anima viva in tutto lo spiazzo. Quindi se c'è qualcuno... Lanciate qualcosa, non so chi può. Fai luce su una freccia e la tiri. Si vede da dove arriva, è quello. Ah, se okay, tipo lui può o evocare qualcosa in vabbè, mezzo, ma tanto lui evocare il cane là. Siamo davanti al fuoco, comunque si vede. Siamo lontani ancora, ho detto. Mm. Non lo so, a sto punto entrerei nell'accampamento. Se c'è qualcuno è abbastanza... è quasi sicuro che sia dentro la caverna, perché ha detto sì, che ma non c'è qualcuno è diverso da tanti o pochi. Beh, dentro la caverna... quanto è grande la caverna? Era molto grande. Dentro? Dentro c'era un po' di cunicoli, non erano enormi, però un po' di... quindi possono c'era. Essere anche in 20, nel senso è grande, ci può stare tanta gente. Beh, gli etti ne erano... ah sì, hai ragione. Io non lo so, puoi evocare un secchio d'acqua e spegnere il fuoco, non lo so. Cioè, abbiamo un lago dietro le spalle. Secchio d'acqua. Abbiamo, fallo, abbiamo un lago, farlo. Abbiamo un lago a tipo mezzo metro da noi. Lo vuoi capire che non voglio far capire da che direzione arriva? Benissimo, però... se no vai tu dal lago. Il discorso è che anche se sono pochi o tanti, comunque noi siamo stanchi. Cioè non possiamo se affrontare sono, uno se scontro. Sono due o tre... non possiamo scoperta sì. io in un allora un voi, voi state indietro, vado io, tanto al massimo posso scappare per l'acqua. Va bene, vado. Quindi cosa fai? Vado nel campamento. Va bene, entri nel campamento e sono abbastanza vicino alla riva, se posso. Ok. E chi ha preso possesso del luogo si faccia avanti. Non andare, sta fermo. Poi da un lato, dall'altro lato rispetto a quella che è arrivata, sentite la voce. Vabbè, rega, potete anche uscire, si sente da chilometri di distanza, eh. E esce fuori Filip. Ah. Nessuno ci aveva pensato, in effetti. Pensavo che foste quegli orchi che ho visto sull'altra sponda. Però vedo che fortunatamente siete voi. All'altra sfonda, cioè capitano, lato del lago, ha valorosamente guardato le retrovie. Quanti ne hai visti? Sono parecchi, svariate decine. Se hanno visto che il posto è libero, milioni. Se hanno visto che il posto è libero, è come se ci aspettassero. Vabbè, devono attraversare il lago, che non è esattamente veloce come cosa. No, però se noi ci accampiamo qui domattina, neanche sono qui. Dovrebbero fare una marcia forzata per tutta la notte. Anche concedimelo, sono tipo 50 km da una sponda all'altra. Filip che vista. Filip è scappato un pazzo. No, ho capito, però. cioè, sull'altra sponda è tipo. No, nel senso, magari un po' più là. Beh, ok, adesso non stare. Ok, lì sembra enorme, però anche perché se te lo faccio piccolissimo quindi, non lo vedi. Quindi. Filip a che distanza intendeva di averli visti? Lui dice sono lontani, però qualche diciamo ora. Che possiamo probabilmente stare accampati qui e però mattina domani okay. Cioè non lo so, magari non c'entrano niente, però cioè, lui deve finire, no abbiamo so, motivo di credere che gli orchi vogliano venire qui. Ok, allora forse dovremmo toglierci subito dalle palle. Mi sarei tentato di andare via. Possiamo riposare altrove. Andare sulla barca e prendere e dormire sulla barca. No, attraversi e torniamo da Ma anche partiti. Dormire e riposarsi sulla barca mentre andiamo. Esatto, tanto è grande la barca. Il vostro marino come puoi cercare, non mi ricordo neanche la parola. Il mostro lacustre. Bel mostro lacustre. Abbiamo un bel barchino, cioè non è che. Bravo, prego, prego. Fatto cercare un mostro. Intanto ho fatto cercare un mostro lacustre. Tipo questo, Dragon Turtle. Bello. Maledizione. Però è più un lago. È un lago di 50 km. Vabbè, è comunque un lago. Of the oceans. Non c'è un lago. Vabbè, ma lo ri. È un lago c'è. Non dobbiamo combattere per forza. Cioè, secondo... ci sta, mi piace un animale del lago. Secondo me è più sicuro stare al largo. Cioè, nel senso, nel lago. Prendiamo la barca, andiamo. Facciamo. E mentre si va, facciamo un po' di. Aspetta, ci sono delle isole. Cosa? Ci sono delle isolette? No. Nessuna? No. Questa lago. Ma no, magari c'era un'isoletta anche solo di pochi metri quadrati, non se ne frega, no. Giusto? È il dorso della tartaruga. Figo. Va bene, direi che facciamo così allora, dai. Se possiamo, facendo gli appositi turni di guardia, dormiamo in barca. Ci stanno anche le renne. Sì, beh, sì. No, lo so che barca sia, ci stanno anche le remi sulla barca. Pagina 170. Ma è vero che del Dungeons Masters. Una decina di metri. Come? Se è una decina di metri, quant'è? La barra. Ah, tu Laz ce l'hai il. Ti ha dato il pezzo. Ti ha dato, te lo ricordi? Il pezzo con il simbolo. Sappi che ce l'hai. Ah, mi ha dato. Mi ha dato il pezzo dove l'ha disegnato? Sì, dove. Ah, ok. Va bene. Quant'è? A vedere. Sto traducendo in metri. Cos'è? Folding boat? Vabbè, finiamo. Allora, quando si cosa? Un po' di birretta? Ah, beh, no, ma dipende dal comando. Una parola di comando la fa diventare una barca lunga 10 piedi, quindi 10 3 metri e larga 3. La zatter. E due. Una scialuppa. Sì. Un po' di più. Sì, che ha remi e ancora. E anche una vela. Un po' di più invece. Un secondo comando lo fa arrivare a una barca di 24 piedi. 10 metri. Direi che va bene a noi. E un terzo comando. Ah no, niente. Terzo comando ritorna alla scatola. Allora sì, direi la facciamo grande. Ci stiamo tutti. Secondo comando, ship nave di 24 piedi, larga 8, profonda 6, con un ponte, sedute, 5 posti letto. No. O-A-R-S cos'è? Oars. Sì. Ah, sono i remi? Anche remi. Penso remi, sì. Sì? Mm. Sono i remi. Ah, sì, è giusto. Sì. 5 sì. Sedute di remi. Beh, perfetto, siamo in 5. Un altro remo. Bisogna dormire. Il timone. Sì. Mettiamo le renne. Per arrivare là. Un'ancora. Mettiamo le renne a remare, mi sembra un'ottima idea. Un ponte in cabina. In cabina. Ah, quindi sono... Lo yacht, che e cazzo? Vabbè, direi che ci stiamo. Un albero con una vela quadrata. Può contenere fino a 15 creature medie, confortevolmente, c'è scritta. E sì, direi che vabbè, sì, facciamo cosa? Non quello che cercavo, siamo ovviamente i turni di cosa guerra. Cosa la nonna? Attraversata del lago dopo la battaglia. C'è la intro del primo film, non va bene perché affonda la nave. Ah, ah giusto, spoiler. In realtà questa c'è quasi sempre. Sì, però se hai la intro non va bene. Spoiler. Quindi salpate. Salpate. Ah, prima di salpare fate delle finte tracce in una direzione verso la foresta. Pazzesco. Delle finte tracce. Ma dai, che tanto non so, poi faccio delle finte tracce come se noi fossimo andati in una direzione. Però. Sì. Intanto sappia. E okay, ciao, cancellando il più possibile quelle che vanno verso l'acqua. Così se uno arriva pensa che noi siamo andati verso la foresta e non verso l'acqua. Ok. Tutto lì. Anche perché non c'è nessun altro che ha una nave, scio, dai, andiamo. No, ho capito, però così se arriva qualcuno tipo i ranger e vogliono vedere dove siamo finiti, se per un po' non ci guarda nel lago, vedono una nave, dicono eccoli. Non è che noi la nave e quella nave non penso che non pensano gli orchi. Non penso che adesso noi ancoriamo tipo a 3 metri dalla sponda. Penso che andremo un po' più avanti apposta per nasconderci da qui. Ripeto, è un lago di 50 km. Vabbè, non è così grande. 20 km. Camuffiamo la barca con degli arbusti. Poi è grandino, dai. Così la rimetti zia. Vabbè, ma non è che sono... Boh, è mattina, dai. Va bene, quindi andiamo così. Long rest. Non mi riguardi, saliamo di livello. Dopo. Allora, dai, ma finiamo, si sale, dai. Direi che salite di livello. Oh. Perché? Adesso no, finiamo. Vabbè, ma tanto ormai è finita. Uffa. Non c'è neanche un combattimento. No, direi no. Cioè, però mi do una chicca finale adesso che siete contenti. E io dato 4. Te lo faccio vedere? Gli hai fatto la metà. Va bene, Las, fammi vedere il tuo dato. Allora, 1 quindi 4. 10. No, Maronna. Giulio, se non vuoi salire, però ti con quel dado. 4, anche questo giusto non si faceva vero, sì. 4, 5, ad 80 precisi. Cioè, guarda, io faccio sempre o così basso da prendere 5 o prendo 5. Va bene. È vero, io che ho fatto 4 prendo 5, scusa. È vero. Ah, 5. La metà più 1? Ah, ok. Io, la metà sarebbe 4 e mezzo. Arrotondi. Ah beh, è vero, perché non sono 0. Mezzanotte, esatto. Ma non ti posso dare l'altro? Vabbè, facciamo dopo, dai. Va bene, ragazzi. E ti diciamo i punti. Cos'altro si cambiava? Già che non mi ricordo mai. Cos'altro si cambia? L'11? Il livello qua su, immagino. Beh, non fa una via. Dipende che cosa ti dà la tua classe. Avevo guardato prima, non mi ricordo però. Mario, piacere sotto. Francesco, sì. Ah, sì. Ah, il quindi la renna di Lasi invece l'avete persa. Diciamo ma io non mi ricordo neanche dove era andata, perché c'è tutta sta gag delle iene. Delle iene. L'11esimo, no? Sì. Quindi avete due renne ora. Il tuo attacco furtivo è 6. Sì, sì, no, l'ho segnato, però non lo ricordavo. Okay. Usiamo la barca come carretto e le facciamo la renna. Tra le vostre, ah, questo? Avete 4 okay. Renne per 5 persone. Tu metti reliable talent, che mi sembra sia fortissima come cosa. Non ho capito. Io in inglese non ricordo, se lo leggo. Allora, va bene. Prima. Mentre salite di livello, allora arrivate all'altra sponda del fiume. Chi? Quindi sì, durante la diciamo quando la, fai un'ability check la notte fate la traversata, sì, non puoi fare meno di 10. Ah, comunque state lì tipo stealth al massimo, cioè, 10. L'idea era ancorarci, sì. Anche se faccio sì, 8 sì. Faccio 18, ascoltatemi un attimo, 18-20 prima di salire. Quando faccio un ability check dove ho proficiency posso, non posso fare meno di 10 col sì, bonus di dado. E allora, col tiro di dado, allora, cioè ritiri finché non fai almeno. No, se faccio 9 o meno è come se avessi fatto 10. Dai che c'è la chiusura. Allora, quando la mattina arrivate alle sponde del lago sull'altro lato per entrare verso l'accampamento, immagino, giusto? Questa è la vostra direzione. Scendete, recuperate la barca, ma vi rendete conto che è meglio stare sulla barca, che praticamente proprio vicino a dove avete attraccato ci sono delle impronte abbastanza inequivocabili che Philip riconosce immediatamente come impronte di un drago. Potrei mancare alla prossima sessione. Può no. Essere un buon motivo. No, i draghi sono miei amici, io sono il draconico. Ok. E... ah, però se posso dire, mi sono ricordato che sono orchesco. Bravo. Cosa c'entra col draghi? Ma si può parlare anche in altre lingue. Che è bello, bello. No, visto che ci sono degli orchi in giro. Molto bene. Un drago. Ma non, so, non capisce niente di più. Dove va? Forse è il lancio della prossima puntata. Il 30 come si intitola? Non so, però vi faccio trovare un drago, così vi fa piacere trovarvi un drago nella campagna, no? Se non lo foreste. Beh, si chiama Dungeons and Dragons. Eh sì. Bravo, Sceo. Va bene. E con questo diamo per concluso il 29esimo episodio. In cui io non sono morto. In cui tu non sei morto. Che però. Solo perché non abbiamo combattuto. Il 29esimo episodio di Coloni, il grande gioco, e vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alle prossime sessioni con i draghi e i dungeon. Facciamo vedere il nostro merchandising, mi raccomando, compratelo su Society 6 come non avete fatto finora, e qui qualcuno sì ma probabilmente no. E magari c'è qualcuno dall'altra parte del mondo con la nostra tazza. In realtà qualcosa l'abbiamo comprato a un certo punto. In serio? È stato solo con altri nomi. Dici? Non lo so. Beh, Comunque, ci rivedremo nelle prossime sessioni. Yes. Vedremo se Shiro continuerà a non morire sorprendentemente. No, è più facile che non ci sia. Se ci sono, muoio. Un classico. Elementale Watson. Mamma mia, forse c'è un motivo, sono un po' in... se non riesce a mettere se mi piace. No, volevo mettere mi piace quello della disco. Va bene, ai prossimi episodi di Tycoons & Dragons. Allora, voi intanto salite pure prima. Fatto in fretta. Salito. Cioè, devo da scegliere l'incantesimo di sesto. No. Allora, questo è fatto. Li vediamo. Ma solo un livello. Solo un livello. Cioè, alla fine la scelta tra gli incantesimi di sesto è un po' ridotta. Perché... E tu? Sarà uno. No, perché la maggior parte. Vuoi scambiare allora? Possiamo metterci d'accordo su fare una sessione. La maggior parte richiedono l'utilizzo di componenti. Un po' di esperienza. Cioè, roba da migliaia di monete d'oro. Una one shot di me che possiamo metterlo di domani, però. Va bene, amici del podcast, saluti anche a voi. Proviamo.